Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione, voi cercate di fare con gli altri. Lei mandi in merda. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! Certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io amo la zanzara, non penso più alla moglie, al lavoro, ma io penso solo e sempre alla zanzara. Per esempio, Parenzo, a te non capita mai di pensare più alla zanzara e meno a tua, alla tua compagna, a tua moglie? Ti capita qualche volta? No, non ma mi risulta, sei, perché io opero una cesura totale tra il lavoro e gli affetti. Ma non può esistere una cesura totale, è la tua aspirazione, ma non può esistere. Leggo ogni giorno giornali, cose, quindi... Ma non arriverai da nessuna parte facendo questa cesura totale, il privato è pubblico, il pubblico è privato. Però mi piace moltissimo quando sono... Anzi, mi stimola ancora di più la creatività stare per i cazzi miei. Ti stimolasse qualche altra cosa? No, come fai? Non pensare a tutte le minchiate che capitano ogni giorno, è proprio lo stacco. No, vero, io però vorrei far risentire questo ascoltatore, perché è una specie di guida, è una specie di guida verso il futuro, verso la direzione che dovremmo prendere, no? Pensare solo ed esclusivamente alla radio, solo ed esclusivamente a questa trasmissione. Cancellare tutto, figli, mogli, fidanzate, amanti. Io amo la zanzara, non penso più alla moglie, al lavoro, ma io penso solo e sempre alla zanzara. Tu penserai che questo non è normale, quello che ha lasciato questo messaggio, totalmente, no? Pensi che non sia normale. Di mente, ma vabbè, tu pensi totalmente. Che la maggior parte delle persone che chiamino questa trasmissione, che chiamano continuamente questa trasmissione, che seguono e sono tantissimi, siano la maggior parte dei malati di mente. No, quelli che chiamano, io penso quelli siano che dei ma non puoi dire così. Potenziali malati di potenziali, mente. Potenziali. Alcuni lo sono de facto, altri però, potenziali. Ragazzi, io voglio dirvi una cosa. Pensavo di non dover tornare sulle questioni che riguardano gli animali e vi assicuro che non lo volevo fare. Vi assicuro che non lo volevo fare. Mi ero ripromesso per un po', non parliamo degli animali, se no uno pensa che sono ossessionato, no? Ieri ho parlato di una cosa, però poi leggo certe cose e non ce la faccio a trattenermi, perché il mondo va in una direzione che non mi piace. L'Italia, il mondo, la giustizia, la civiltà va verso un mondo in cui c'è una parificazione totale tra l'uomo e l'animale, perché da una parte c'è l'uomo con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue nefandezze, con tutte le sue schifezze, per carità, lo possiamo riconoscere tranquillamente. E dall'altra parte, almeno secondo me, c'è l'animale, è un'altra cosa. Ci sono le leggi, il rispetto contro il maltrattamento, sono anch'io, eccetera, eccetera. Però è l'animale, non c'è niente da fare, questa è la divisione. Invece ormai siamo in un mondo in cui tutto viene parificato. Leggi ed ascolti delle robe pazzesche. Per esempio, amico mio, Comune di Milano, adesso non perché abito a Milano, ma probabilmente succede anche in altri posti. Comune di Milano, domani, un assessore, di cui non faccio il nome perché non mi interessa, perché potrebbe essere l'assessore di qualsiasi città italiana, voi che ci ascoltate, perde il suo tempo a partecipare a un'iniziativa che si chiama così, ragazzi, 18:36, si chiama in questo modo, ha questo titolo: Il fumo uccide anche loro. Una campagna di sensibilizzazione sui danni provocati dal fumo passivo agli animali domestici. Io non ce la posso fare. Vada bene il fumo passivo, per carità, ci sono studi internazionali, Parenzo, c'è qualsiasi cosa. Beh. Va benissimo, il fumo passivo. La cosa insopportabile, il fumo passivo uccide anche gli animali, non ce la posso fare che qualcuno perda tempo su queste cazzate, non ce la posso fare. Altra cosa, ve lo dico chiaramente, altra cosa. a Montebelluna hanno rotto i coglioni a un povero pescivendolo per tre. Poi hanno dissequestrato tre aragoste, tre astici. Sì, questo ho visto. Che erano stati messi vivi sul ghiaccio, vive sul ghiaccio, aragoste, astici, chiamateli come volete. Per fortuna il giudice, che pure ha dovuto aprire un procedimento perché un tizio ha denunciato il maltrattamento degli astici, divento pazzo, il maltrattamento degli astici. Meno male che un giudice dice, vabbè, però non ha restituito gli astici, non li ha sequestrati. Ma ora, ti pare normale che i giudici in tutta Italia, perché non è l'unico caso, no? Treviso, Firenze, una sentenza riconosciuta all'astici. Ma dove li hanno messi? Non lo so, guarda, cioè il punto, a Firenze una sentenza, ha riconosciuto all'astice il diritto di essere ben trattato. Ma come glielo comunica all'astice, però? No, ma ci saranno delle regole sicuramente, ma io vado ai matti. I giudici italiani dovrebbero essere impegnati. Ma dove glielo notifica all'astice? Come si fa a notificare un atto all'astice? Non lo so, guarda, non lo so. Guarda, sono disperato, io sono disperato, come sono disperato per quelli che hanno... se sono sotto processo, non mi ricordo dove, credo a Lanciano, in Abruzzo, e perché hanno ucciso dei topi per la sperimentazione, no? Magari hanno sbagliato, hanno violato delle regole, ma hanno soppresso dei topi che erano avanzati dalla sperimentazione, diciamo. Hanno soppresso dei topi col gas, hanno gasato dei topi, può sembrare strano. Beh, ma hanno gasato dei topi. Non mi viene da piangere, cosa devo fare? Ma amico mio, sono topi! No, certo, topi gasati, va bene, avranno violato delle regole, diamogli una piccola multa. Diamole in beneficenza, non lo so, ai gattini abbandonati, ai cose, una piccola... Reato penale perché hanno gasato dei topi per la sperimentazione, amico mio, processi aperti, tempo perso, mi sono rotto i coglioni di queste cose! Basta, dai, basta. Abbiamo già un ospite. La Boldrini, ieri non l'abbiamo mandata, la mandiamo oggi. La Boldrini dice, certe volte mi chiedono chi me l'ha fatto fare, ma anche noi ce lo chiediamo però spesso, cara Boldrini, non voglio dire niente, eh. Cioè, anche noi spesso ci chiediamo perché dobbiamo sopportare tutto questo. Ma è vero o no che a Macerata hanno fatto un cartello dove sotto c'è scritto, no, è uno scherzo, dai, che purtroppo questa città ha dato i natali al presidente della Camera, quello è un fotomontaggio, della rete. Boldrini, dai. Che cosa l'ha spinta a buttarsi nella politica quei 3 anni fa? Oramai sono passati 3 anni, in un momento tra l'altro in cui proprio l'antipolitica dilagava. Lo sa, Cristina, che a volte ricevo delle email in cui c'è solo una domanda. Presidente, virgola, chi gliel'ha fatto fare? Punto interrogativo. Non c'è nient'altro. Devo dire la verità che è stata un'intervista molto incalzante, eh? La signora Parodi. Intervista molto molto incalzante, di quelle a schiena dritta, amico mio, a schiena dritta. Ma quando bisogna dirle alcune cose bisogna dirle, sì, schiena dritta. Non c'era affatto complicità tra le due, no? Tra la Boldrini e la signora. Ma quello, la signora? E la signora Parodi, là, come si chiama? Beh, poco male, non è che tutte le interviste devono essere in aggressività. Per carità. Anzi, poi tra l'altro va bene perché è un registro da pomeriggio, no? Allora, a proposito della vicenda di Quarto, mentre abbiamo già un ospite pronto. Da Quarto al Volturno, noterelle d'uno dei mille. Abba. Mamma mia, oh, che cultura, ragazzi. Una roba incredibile qui, da Quarto. Adesso Quarto non è più famosa. Sì, per la signora Rosa Capuozzo, di cui ieri abbiamo sentito il gentile consorte. La signora Capuozzo non si vuole dimettere. Dario Fo sostiene che il Movimento 5 Stelle ha recuperato 10 punti negli ultimi mesi e dunque c'è una sorta di di complotto, no? Un modo per eliminarli. Cioè Woodcock, le inchieste, il comportamento della Capuozzo, quest'altro tizio ex 5 Stelle che pare legato alla Camorra. Tutto per fottere i 5 Stelle, il grande complotto. Questo è come Casaleggio quando dice che gli hanno tolto i bulloni della macchina, gli hanno svitato i bulloni della macchina, no? Il grande complotto. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Qui c'è semplicemente un errore nelle candidature che c'è stato, non della Capuozzo, dico di quest'altro, perché può succedere. La Camorra ovviamente si appoggia a quelli che vincono e dunque tenta di infiltrarsi e punto e basta. Molto semplice, è inutile fare tutto sto casino perché uno deve mantenere la purezza. Dario Fo. Il successo di 5 Stelle preoccupa molto. Non bisogna dimenticare che in un anno 5 Stelle è rimontato di 10 punti, esattamente quello che ha perduto il Partito Democratico. E allora bisogna trovare, ma questo è palese, è chiaro, bisogna trovare il modo di eliminarli. Io penso che qualche volta Dario Fo userebbe fargli ciaone, eh? Sì, ma no, ma ciaone, ma ragazzi, ma ciaone, il complotto nei confronti dei 5 Stelle. Se uno me lo fa, ragazzi, guarda una testata come ancora si con sto ciaone. Guarda, ho ricevuto 50 messaggi contro di te su sta roba di ciaone che ti facevano ciaone. Ah, perché tu hai amici 50 che fanno ciaone. No, no, ma non mi interessa a me questa cosa, dai. Complimenti, complimenti. Gianluca, buon anno con noi. Gianluca, come stai? Ciao, ciao. Buon anno, ciao. Come ciao, va? Tutto bene. Buon anno in tutti i sensi. Buon anno anche a voi, il mio vale doppio. Beh, sì, perché ti chiami buon anno, vabbè, hai sempre giocato su... pubblicità in diretta mi hanno fatto. Ah, tu dici, bellissimo, becchi voti pure per... Tutti quelli che gli sto antipatici, pensa a quelli, tutti quelli antipatici che per buon anno, che fanno fatica a dire buon anno. Senti, bello, ma bellissimo. In Danimarca, caro Gianluca, hanno sequestrato, sì, hanno, vogliono, c'è cioè un progetto, i beni, sì, di valore ai migranti. Cioè, che i migranti arrivano... No, lo sa perché il parlamentare europeo qualcosa sa. Sì. Hanno sequestrato, vogliono sequestrare i migranti che arrivano, i beni di valore. Cioè, tu arrivi, sì, hai dei contanti, hai del denaro, hai qualcos'altro, te lo prendono così lo Stato si ripaga dei costi che deve sopportare poi per la presenza degli immigrati. Che dici, tu lo faresti, sì, subito? Sono perfettamente d'accordo e lo applicherei ovviamente anche in Italia, perché... E tutti quelli che scappano dalla guerra, allora abbiamo visto dalle statistiche che molti di loro non scappano dalla guerra, ma è invece un viaggio che fanno per una questione ovviamente economica, e però li vedi con i cellulari, con i soldi, e quindi è giusto quello che fa la Danimarca. Con le Adidas magari. Sì, appunto. Cioè. Che ne so, e poi ci sono veramente dei casi veri, ci mancherebbe altro, ma sono molto di meno. Cioè tu che faresti, scusami Gianluca, che faresti alla fine? Cioè, intanto la prima cosa che farei è gli farei un'iniezione di bromuro, perché visto quello che è successo anche a Colonia. Cioè tu dici i maschi che arrivano immigrati, per non sapere né leggere né scrivere, tanto non è che fa male, iniezione di bromuro. No, appunto, lo facevano anche in Italia una volta. I militari, iniezione di bromuro. Era una leggenda. Ah, vabbè, il militare c'è. Io veramente speravo che... Però io lo farei subito, questa delle iniezioni, e poi altra cosa che farei. Io speravo veramente che l'anno nuovo, cioè, aspetta, magari metterei dei microchip sotto pelle, sì, per avere tutte le informazioni su tutte queste persone. Cioè, quindi, metteresti a ogni maschio oppure a tutti in generale? Tutti gli immigrati? No, che... diciamo che la pericolosità, parliamoci chiaro, la stragrande maggioranza che arriva sono maschi. Sì. Perché, mettere un microchip sotto pelle per seguirli, diciamo, per seguirli, cioè una specie per avere tutte le informazioni che necessitano, quindi se hanno fatto costa un sacco dei soldi, se sono a posto, costa un sacco dei soldi sta roba, non è che comunque però hai una sicurezza, cioè, tu dici allora chip sotto pelle, iniezione di bromuro dici perché sono pericolosi, si è dimostrato, no? Vabbè, certo, non possiamo mettergli le mutande di ghisa, non gliele possiamo mettere, quindi cominciamo a fare quello. Bisognerebbe metterlo anche a tanti maschi padani il bromuro, sai, caro. E poi però guarda che sarebbe una cosa, quello del bromuro sarebbe con pochi soldi. Cioè, io non capisco se lui lo fa perché a Roma si dice ci fa o ci è, cioè potremmo dire se lui lo fa perché è stupido oppure perché vuole farlo. Ma tu pensavi che si fosse un po' ripreso con questa storia dei gay, dici, del registro? Che l'anno nuovo, che comunque le cose, cioè, lo avessero un attimo risavito, anche perché anche il circo rinnova i suoi numeri. Ma guarda che il registro delle coppie civili secondo me è una finta, perché lui sa benissimo che non serve una mazza. Lui lo fa per schedarlo, anche dichiarato, però è un gesto che voglio fare, perché comunque i diritti verso le coppie omosessuali ci devono comunque essere, secondo me. Vabbè, ho capito, però non serve una mazza, sai, lo dici, ma tanto non serve un cazzo perché nessuno lo fa. Oggi non serve, però è un gesto, quello che ho fatto io, che in realtà dalle mie parti ha messo in crisi la sinistra, che pensavano di essere quelli che hanno inventato tutto e che fanno tutto, e in realtà invece chi lo fa, uno della Lega, e non lo faccio solo io, lo faccio. Ma senti, ma i musulmani, secondo i musulmani, quelli che sono arrivati, per tornare ai fatti di Colonia, sono tendenzialmente stupratori? Cioè i musulmani, nel senso gli immigrati nordafricani, cioè hanno nel DNA, hanno nella loro indole qualcosa di violento nei confronti delle donne, o no? Secondo me non è che hanno un qualcosa di violento, perché sono abituati a vivere in maniera selvaggia, molti di loro, quindi è evidente che arrivando in paesi occidentali, sì, in paesi occidentali per loro le regole non esistono, cioè è abbastanza chiaro. Cioè è normale mettere le mani nel culo di una donna per loro, dici? Ah, direi proprio di sì, anche perché comunque... Direi proprio di sì. Anche perché comunque queste persone che arrivano, non avendo le regole, non hanno le regole, sono un po' come dei bambini, tra virgolette, tra i bambini, nel senso, gente che bisogna seguirla. Cioè, tu dici comunque la prima cosa è il bromuro. È un parlamentare della Repubblica, avviso chi ci ascolta, è un parlamentare della Repubblica italiana, eletto in Europa, pagato da noi. Cari ascoltatori, la persona che state sentendo, cari ascoltatori, la persona che state seguendo è un parlamentare italiano eletto al Parlamento Europeo. Scusami, Gianluca, le donne sottomesse, chi è che le ha sottomesse? Chi predica una legge dove le donne sono sottomesse? Chi nei propri stati le donne non contano niente? Sono i paesi quali? Islamici? Sono i paesi africani o no? Un attimo solo, chiaro, un attimo le solo. Donne sono viste come degli animali per certi aspetti. Senti, papà, tu hai una figlia femmina o maschio? Maschio. Hai un maschio, eh? È un maschio. Traffico. Allora, la prima cosa che io farei per la città è il traffico, cercare di regolare il traffico, sicuramente meglio di come adesso, la viabilità. La Zanzara. Allora, torniamo però alla proposta che sicuramente spacca, della Danimarca. Adesso allontaniamoci un po' dalle beghe italiane, che però Buonanno dice che si può fare anche in Italia. Cioè, arrivano gli immigrati con i barconi, con gli aerei, non so come, insomma, rifugiati, immigrati che ancora non si sa se sono clandestini, sono regolari, la maggior parte all'inizio sono clandestini, cioè non hanno i titoli per rimanere qui. Allora, la Danimarca, che non è un paese incivile, no, che cosa vuole fare? Vuole prendere tutti i contanti che ci sono. Poi non so se questi arrivano con i contanti. Comunque, se hanno qualcosa, prendere i beni di questi immigrati e servirsene per ripagare i costi della loro presenza lì. Certo. Ecco, tu lo faresti. Detta così mi pare una sciocchezza mega galattica. No, è stato un accordo destra-sinistra, tra l'altro. Non, è che non la c'entra, ma infatti. Così come la questione delle. Ma scusa, tu che faresti concretamente? Cioè, tu arrivano questi e che fai? Li sequestri cosa, per esempio? Allora, non so, ci sono soldi loro. Il principio è questo, questi arrivano, prima che tu capisci se sono scappati dalla guerra veramente oppure no, ci vogliono un sacco di mesi. Vabbè, lo sappiamo, sì. Dunque? Okay. Allora, per non saperne leggere né scrivere, requisisci tutto, perché ti costano comunque un sacco di soldi, sì. E questi soldi che tu requisisisci, o il materiale che tu requisisci... Che ne so, con i cellulari, pure i cellulari. Ma eh? Sì, ma certo, sì. Perché? Ma basta che... tutto, ma e vabbè, adesso aspettiamo un po'. E non poi posso neanche parlare a casa loro. Gli metti il micro... Ah, perché a casa loro, che scappano dalla guerra, c'hanno la casa del telefono. Non possono neanche parlare con i loro parenti. Ma questo è strano, però. Questo è strano, però. Se uno scappa dalla guerra, non è che c'ha il cellulare per chiamare a casa. Scusa, è un po' bizzarro. Io ho intervistato e conosciuto un sacco di migranti che cercavano i loro genitori, i loro parenti, i loro fratelli in giro per il mondo. Che c'entra? Allora ci dai tutte le informazioni subito alle verifichiamo. Ma soltanto tu vuoi avere parenti? Che si vergognano di te, peraltro. Gli metti il microchip per stare tranquilli. Requisito tutto e poi vediamo che cosa succede. La Danimarca si è fatta furba. E che ci fai con i cellulari? Con i cellulari che dice... Coi cellulari sequestrati, che fai? Che ci fai con i cellulari? No, poi si possono anche utilizzare, possiamo anche darle ad altri che ne hanno bisogno, come tanti italiani che non hanno i soldi per il cellulare. Ah, tu dici prendere i cellulari dei migranti e dargli agli italiani. Sì. Ma certo, non è che ci mancherebbe altro, visto che li manteniamo, almeno una specie di furto con scasso questo. È un furto legalizzato. No, ma è normale. Ah, perché ci costano, tu dici, siccome li mantiene, ci costano. Prendiamoci un cellulare e lo diamo agli italiani poveri. Ma dici tu questo? Quanto ci costa? Beh, questa è una proposta però, attenzione, questa è una proposta. Ma quale proposta? È una questa proposta. È una follia. Guarda che ti dico una cosa che io ho fatto, l'unica proposta di legge che è passata legge, sì. Che era l'unica che non quale? Faceva pagare dove una tassa agli italiani, dove era quella che ho inserito io, quale? Dove con il 2% dei soldi che andavano all'estero da parte di tutti quelli che sono stranieri in Italia, l'Italia ricavava circa... 150 milioni di euro. Vabbè, all'anno. Ho capito, mi sembra un po' troppo. Per questi dire. Non è che c'hanno i soldi. Comunque, tu dici: questi arrivano, prendiamo il cellulare, e tanto li dobbiamo mantenere, dobbiamo dare dei soldi mensili a questi. Li dobbiamo mantenere. E poi usano i telefoni pubblici se devono telefonare a qualcuno. E così controlliamo io meglio. Io sono andato a Lampedusa, sai cosa hanno fatto con i telefoni pubblici questi qua? Che hanno fatto? Li hanno sradicati, diversi. Sono andato che l'ho visto con i miei occhi. Per cui i cellulari li diamo agli italiani. Questa proposta, allora, i cellulari, se arrivano con i cellulari, diamoli agli italiani. Quanti, diciamo. Quanti italiani si possono permettere il cellulare o comunque sono in difficoltà? Bisogna Ognuno li porta nei comuni. Sono sbalordito, cioè... Alla stupidità non c'è proprio fine. Però è una proposta concreta. È una proposta. E allora perché anche proposta. I vestiti? Non gli una sequestri i vestiti? È una proposta. perché non gli sequestri anche i vestiti, li lavi bene ovviamente perché sporchi, no? E poi li dai a altri. No, poi glieli devi dare, che c'entra? No, no, li lasci girare nudi, perché devono girare vestiti? Ah, dai, adesso. No, ma perché? Adesso no, dai, li metti anche in una gabbia. Ma se la Danimarca, che è uno dei paesi più evoluti, fa una scelta del genere, sono tutti scemi anche in Danimarca? In Danimarca i beni dei migranti saranno sequestrati per legge per pagare le spese di accoglienza e il soggiorno nei centri. Bene, e voi sapete quanti ci sono in Italia profughi o clandestini, più clandestini e profughi, che ci costano 1000 euro a testa, perché quando fanno il ricorso rispetto al fatto che non sono scappati dalla guerra, riconosciuti, possono rimanere qui mesi e mesi, sì, e certo, ci costano centinaia di milioni di euro all'anno, sì, e chi paga? Scusa Gianluca, ma la pettorina, cioè, tu hai proposto anche la pettorina, che vuol dire dopo i fatti di Colonia? Adesso facciamo in un'intervista al Libro bellissimo di Matteo Pandini, eccetera, ha parlato di pettorina, non lo so, sono curioso. Quella la corsa. L'idea è questa. Intanto bisogna riconoscerli. Adesso io quello del microchip è ancora una cosa più evoluta, però per riconoscerli, per fare in fretta, devi mettere un capo d'abbigliamento dove sono riconoscibili. Ma una stella gialla magari, no? Una stella gialla. E di che colore? Possiamo, con il nome, come le mucche, possiamo tatuarglielo sul braccio. Sì, però siccome c'è il rischio, siccome c'è il rischio che uno se la tolga, perché non glielo tatuiamo sul braccio? Qualcuno lo fece in passato. Assolutamente no. No, però, scusa Gianluca, sul braccio, Gianluca, Gianluca, scusa. Io non so se la stupidità. La pettorina di un colore, detto da lui. Mamma mia, se la stupidità diventa la pettorina di un colore, Scusa, è come la pettorina che c'è quando è la stella gialla, è uguale a quello. È la stella gialla, è la stessa cosa. No, la pettorina di allenamento. No, la pettorina, perché si chiama pettorina? Allora, siccome si chiama pettorina, io non la pettorina è diversa dalla stella gialla. Aspetta, se a Colonia ci fossero state in qualche maniera identificate queste persone, si capiva, secondo voi tante donne sarebbero andate, si sarebbero preoccupate prima oppure no? Cioè, tu dici se gli immigrati, la gente così gli va fatto solo il ciaone. Però scusami, adesso per paradosso, no? Per paradosso, siccome vogliono dare il nome, vogliono mettere il nome tu sei favorevole al nome dei poliziotti, Parenzo, no? Cioè, tu sei favorevole al fatto che i poliziotti, quando vanno in una manifestazione, devono essere riconoscibili. Non il nome, il numero di matricola, non il nome. Allora, non il numero di matricola. Non Gianluca Buonanno, ma il nome è un funzionario dello Stato e deve essere riconosciuto. Comunque, perché rappresenta lo Stato. Ma che colore daresti alla pettorina? Non so, giallo, colore, è già stato fatto. Arancione, appunto, vedi, giallo, arancione, verde, fatto. Blu. Riconoscibile, col nome dietro, tu dici, ma no? Certo, con sì, con i cattari frangenti magari anche. E se uno non se la mette? Devono essere responsabili di se stessi. E se uno non se la mette? Devono capire che non possono fare i furbi. Se uno non se la mette, sta pettorina che fa? È espulso? È multa? No, cosa? Sai cosa potresti fare? Cioè, io lo dico da sindaco, no? Sì, uno da sindaco fa un'ordinanza e dice, i clandestini, i profughi che ci sono nella mia città, ordinanza, devono sempre andare in giro con la pettorina con il nome sopra. Fosforescente. Qualcuno, guarda, già lo fece negli anni 30 e in Europa. In Europa, negli anni 30. Non facciamo questa... Ma è vero che vuoi fare largo, dobbiamo concludere, è vero che vuoi fare largo Checco Zalone? Mi piacerebbe, sarebbe una bella cosa. Largo Checco Zalone. Ecco come danneggiarlo, come danneggiare un successo mondiale. E invece potrei fare anche... Cosa? Dimmi. Allora, ad esempio, se fossero tracciati, fammi prima dire questa cosa sera, se fossero tracciati i responsabili della strage di Parigi, li avrebbero presi, no? Se fossero tracciati con i microchip, bisogna inserire i microchip nella pelle. Perché questa gente qua, c'è tanta gente comunque per bene, ma ce ne sono tanti che ci odiano e quindi meglio come Sibilia. Scusa, largo che quindi cosa... anche all'onorevole Khalid Ciauchi gli mettiamo il microchip per sicurezza. No, lui non dice ma no. Stiamo parlando di vabbè, però potrebbe persone. Essere che ne so, magari è colluso pure lui, per sicurezza lo metteresti mettiamo... pure lui a Ciauchi il microchip? Ma chi è Ciauchi? È il deputato del PD, sì. Ah no, ma figurati, vabbè, ciao lui Gianluca, è solo di portare l'imam al Parlamento, cioè da ricovero anche lui se fossero i manicomi ancora aperti. Da ricovero. A presto, ciao Gianluca. Ciao, a presto ragazzi, ci sentiamo dopo il giornale radio. Parenzo, ciaone. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. We'll be right back. Ma cosa aspetti a dargli una vena sepoltura al gatto? Quel gatto che è in testa, che si vede lontano un chilometro che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si vede lontano un chilometro che è un gatto che non è, sono sui suoi capelli. Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. A proposito di 5 Stelle, il sindaco di Quarto, tutto questo psicodramma rispetto alla permanenza o meno del sindaco, che è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle ma non riescono a schiodarlo dalla poltrona. Devo dire, caro Parenzo, che quell'immagine che abbiamo visto ieri su Facebook, su internet, quello che è, non mi ricordo adesso il social interessato, di una parte del direttore, dei tre del direttorio, noi, i mamma santissima del Movimento 5 Stelle, la triade, mi è sembrata una roba veramente vecchia a livello di comunicazione, anche fatta male, devo dire, che si è prestata a molte ironie, no? Le tre abbiamo scimmiette. Abbiamo parlato con la rete, direttamente, con l'agenda, normale. Sì, poi dicono che Grillo e Casaleggio non c'entrano nulla. Io non ci credo a queste cose, che Grillo e Casaleggio non abbiano messo bocca sulla decisione di cacciare la signora Capozzo. Dai, ragazzi, su, non... perché bisogna prendersi in giro? Come l'ha detto? Beh, Grillo ha detto che si è detto. No, dico, la decisione, no. Ma che vuol dire la decisione pratica? Se già sei il fondatore e unico detentore del simbolo. Comunque, noi siamo con la Capozzo, questa è la cosa. La Zanzara è a fianco della signora Capozzo, diciamolo. Possiamo essere d'accordo almeno su questa cosa? Io e te Ma possiamo assolutamente. Essere d'accordo? Hashtag la Capozzo non si tocca. Poi se viene dimostrato che è camorrista pure lei, oppure che a quel punto c'ha one alla Capozzo, oppure che se l'è fa, oppure che se l'è fatta sotto e non è andata a denunciare eventuali reati, perché c'ha non è che, one non è che uno caso. Va dal giudice e dice quello mi minaccia perché vuole l'assessorato, non c'è dubbio. Beh, non è che uno va dai carabinieri per denunciare qualsiasi cosa, no? Comunque va bene, ragazzi, poi uno può pensare come vuole, che quelli sono più puri degli altri perché fanno fuori le persone ancora prima dei processi, ma questa non è una cosa normale, diciamola tutta, no? Una cosa un po' stalinista, no? Per usare un termine storico. Però su questa vicenda c'è stato uno scontro formidabile in televisione oggi dall'amica Merlino, signora Mirta e anche Merlino. Sì, come no, domani sarò anch'io lì dalle 12 alle 13. Ma sempre fa la marchetta sto cazzo di trasmissione che devi fare la domenica. No, sempre fa la marchetta. Mi invitano a prescindere, non c'è niente. Beh, sì, ma ci avrai nel contrattino qualche cosa. No, vabbè. Mi invitano come ragionatore, c'è scritto sopra. Ragionatore politico. Il signor Friedman, devo dire, il signor Friedman. Alan Friedman, visto ieri sera anche da Flores, ha detto signor Cruciani, dice che golpe non è esistito, Cruciani mal informato, e allora diciamo Cruciani cretino. Sì, però non lo fare proprio. non lo fare uguale a coso, non lo fare a uguale a Dan Peterson. No, oltre che a Dan Peterson a coso, no, all'ultimo. Che altra cosa. Allora Friedman se la prende col sindaco Capuozzo, senti. Allora. Questo sindaco di Quarto è chiaramente una persona senza pudore. Questa storia è una piccola storia che probabilmente si replica in centinaia, se non migliaia di altri comuni in Calabria, Sicilia e Campania. C'è anche questo lapsus, Calabria, Sicilia e Camorra. Cioè, signor Friedman ha messo insieme un po' tutto. Identifica la Campania con la Camorra. Cioè, ha detto in Calabria, Sicilia, Camorra, Campania. Poi Liguori, grande battaglia, Liguori contro Friedman. Paolo Liguori seduto dal suo studio, dalla direzione, no? Direzione TGCom 24, là sostiene naturalmente da garantista, sostiene la... Beh, lui ha sempre sostenuto, infatti, la Capozzo, senti cosa dice di Friedman, meraviglioso. Fatemi finire, sì, tanto sì. Friedman fa tempo a rimangiarsela. Rosa Capozzo non ma solo Liguori, non ha... cosa hai mangiato male ieri sera? Hai mal di stomaco? Non solo non ha colpe sembra penali, che fammi un finire problema Friedman! Una tua digestione! Una lavata! State difendendo ma come questo tizio parte con gli attacchi di buon mattina e moro volgare e caffone? Chi è questo tizio? È pericolosa l'Isis! Ma per quale motivo mi ha... Sì. Siamo per bene o no? Mi fate finire? Prego. Se siamo per bene, sì. Allora, mi fate finire. Io sono per bene. Ottimo. Tu però con la signora Capuozzo non ti sei comportato né da persona per bene, né da garantista e né da gentiluomo. Meglio Emiliano che americano. sulla Camorra la mafia era 'ndrangheta meglio emiliano che americano. Lascia perdere, ho capito che cioè, hanno cambiato. Banfi era buonista e lui era cattivo, hanno messo a TG Com per fare polemica e quindi inventano una polemica sterile in un piccolo bicchiere per niente. Va bene, va bene. Ma vogliamo mettere anche Baudo che tenta di baciare la musulmana là, quella che era ospite a Ballarò, se non sbaglio. A un certo punto sì. Baudo dice: beh, Ezio, ti do un bacio, che è il bacio, non dico della riconciliazione, no? Della tolleranza, tenta di baciare, dell'integrazione, bravo. Però in realtà questa non si vuole fare baciare perché è proibito dalla religione, no? È proibito essere toccati da un estraneo. In pubblico essere toccati da uno che non è tuo marito. Ma anche in privato, o il tuo fidanzato. Anche in privato. Da uno che non è tuo marito, anche in privato, credo. Comunque, vabbè, quello non c'è dubbio. Baudo si avvicina a un certo punto alla signora che si chiama Fatih e questa invece si ritrae un po', insomma, non si concede al bacio, cosa che da noi è abbastanza normale. A me queste cose mi fanno girare i coglioni semplicemente perché le trovo assurde. Come trovo assurdo uno che va in giro coprendosi i capelli e la testa, non riesco a capirlo, cioè non riesco a capire perché, cioè che cosa ti spinge, perché devi coprire la testa e i capelli, cioè per quale motivo, ma lascia perdere la sicurezza, non me ne frega niente di queste cose, perché devi coprire la testa, c'è un motivo logico, normale, perché le suore hanno la testa coperta, ma quelle sono suore, infatti, che c'entra, sono suore, infatti uno, per me è follia pure quella, a chi dà noia che uno si copre la testa, no, io non ma lo capisco, perché uno deve quando vai dal papa ti copri il capo. Ma a chi dà noia? Per una questione uno che, di il fatto che le donne non possono guidare in Arabia Saudita, in fin dei conti, ma a chi dà noia? Sono cose diverse. A chi dà noia? Ma no, quella è una violenza, comunque, un'imposizione. Baudo, se una donna vuole tenersi un velo sui capelli, ma ti dà fastidio? No, a me no, però... Al sud, fino a qualche anno fa, se lo tenevano tutte il velo sui capelli. Beh, infatti è passato qualche anno. Ma che c'entra? Baudo Fatih. Baudo Fatih. Io vorrei migliorare questo mi paese. Mi piace, partendo... io vengo a darle un bacio. Ecco, meno male, via. No, un bacio, mica le spinge solo la mano. Una mano. Non è possibile, va bene, non si può. Preferisce la Pippo, mano. Non si può, ma... Pippo, non si può fare. Ma io voglio integrare. Vabbè, il tentativo è riuscito lo stesso. Anche senza bacio è andato bene lo stesso. Ma sei un infedele, adesso... non si può fare. Perché? Voglio integrare era chiaramente ironico, uno non lo può prendere sul serio, certo. Dai, su. Stefano Verona, vai, 800 24 00 24, il numero magico per entrare qui in questo bordello, vai Stefano. Buongiorno. Vai Stefano, dimmi, però parla bene, non parlare con gli auricolari, con non tutte... non sto parlando, sono solamente ripreso il telefono da lontano che bravo, era... dimmi. No, niente, ieri avevi fatto quell'intervento sulla dichiarazione della riduzione dell'IVA sugli assorbenti igienici. Sì, la sinistra, non quella del PD, diciamo, no? La sinistra che è più a sinistra del PD, finalmente apre alla figa. Possiamo dire questo? Cioè, beh, nel senso, proposta di lei. Beh, sì, insomma. Mi sembra un po', come dire. Grande attenzione per le parti intime femminili e per quello che producono e per le situazioni che ovviamente si presentano di fronte all'universo femminile. E dunque, molta attenzione nei riguardi dell'organo sessuale femminile e delle misturazioni, eccetera, eccetera. Ma non solo, solamente che. Riduzione dell'IVA sugli assorbenti. Sì, essendo dispositivi sanitari andrebbero anche totalmente tolti via l'IVA come qualsiasi altra prestazione medicinale. Allora facciamola anche sui preservativi, dai, togliamo l'IVA sui preservativi, dai, facciamo così. Potrebbe essere anche questa. Ah, però, sì, ma allora, togliamo l'IVA da tutto, ma va benissimo, ma no, va bene. Sceglie. Quello che dicevo io... Anche i televisori, per esempio, sono essenziali. Senza televisore ormai non si campa, no? Cioè, senza un televisore non si può campare. Quello... Sì, io lo guardo sempre di meno. Strumento fondamentale. Per esempio, la l'IVA sui collegamenti internet. Dicono che internet sia fondamentale, no? Per la vita. Però deve fare delle scelte, no? E questo vuol dire... Vabbè, Stefano, che ci volevi dire su questa cosa degli assorbenti? Il discorso è questo, che potrebbero fare, già che hanno fatto il passo, no? Di valorizzare sempre di più quelli che producono meno rifiuti. Dunque? Come tu potrai vedere, se tu vai a cercare coppette mestruali, su internet. Me lo ricordo, la coppetta mestruale, c'era un deputato dei 5 Stelle che ci ha fatto una campagna elettorale intera sulla Mooncup, sulla coppetta mestruale. devo dire che la mia compagna l'ha scoperti e li usa sempre più volentieri e ha ottenuto due vantaggi. Perché si lava, no? Si pulisce, si lava e si riusa, no? Giusto? Si pulisce, diciamo. Dunque non inquina la coppetta mestruale. Non inquina, sicura, più igienica e soprattutto estremamente meno costosa alla fine della fiera. Ma anche tu ti occupi della coppetta mestruale della tua compagna? No, però vedo. No, ma te ne occupi? Diciamo, te ne occupi dal punto di vista assolutamente, proprio? Assolutamente no, mi guardo bene. Ti fa orrore? Ti fa un po' orrore? Non mi fa orrore, però bene o male, se uno ha un po' di cioè, per esempio, col proprio corpo il mestro, adesso molte donne ci chiameranno e devono chiamare assolutamente come mettersi un Tampax alla fine, ma fa orrore un po' ancora il mestro, pare a te fa orrore un po'. Non sì, mi certo. Occupo di quello, non ti fa orrore non mi sono mai occupato della batteria. Beh sì, l'avrei pensato, no Stefano, a te fa orrore, non è che ci penso, non ci pensi, no, smettila anche di sfogliare i giornali, ecco, sì, questo sarebbe cosa buona, più interessante rispetto alla discussione. No, sto cercando notizie su questo. No, ma la cosa più incredibile del mondo è che uno, invece di fare la trasmissione radiofonica, dovrebbe stare concentrato sul pezzo, le battute eccetera, sfoglia i giornali. Beh, no, ma su questo pezzo non dire molto cazzate, da dire, dai, forza, Luciano sfoglio. Dalla provincia di Lucca, ho capito. No, togli questo cazzo di giornale che mi dà fastidio. Luciano dalla provincia quando di Lucca. C'è un tema a me non me ne frega niente, dai, leva i giornali. Sfoglio. Luciano dalla provincia. No, mi dà fastidio al suono, dai. In segno di protesta. Vai Luciano, dimmi. Mi senti? Dimmi. Allora, scusa, vado un po' fuori tema di stasera. Ti volevo fare un esempio prima e poi ti dico a cosa volevo arrivare. Se due persone amatoriali vanno a giocare a tennis, uno dei due prende un infarto, sì, l'altro viene coinvolto, accusato di omicidio o no? Ma non ho capito, no. Scusami. Allora, due vanno a giocare a tennis, due amici. Sì. Uno dei due giocatori li prende un infarto e muore, l'altro viene accusato di omicidio? No. Beh, no, tendenzialmente no. Allora, dunque, il discorso di Firenze è come tutti... Due si mettono a fare un gioco erotico volontariamente, non di forza che l'ha costretto. Sì, ancora cioè, non viene è, aperto un fascicolo comunque per accertare la morte. Ammettiamo che sia un gioco erotico volontario da parte. Finito male, il gioco erotico muore, finito male. Sì. Uno muore, quell'altro non deve essere mica accusato di omicidio. No, ma viene aperto comunque un fascicolo. Vabbè, adesso non fare il questurino. Certo, il questurino dice che viene aperto un fascicolo, cosa che sappiamo. Io ho partecipato a un gioco erotico volontario con la mia compagna. Vabbè. E viene accertato perché uno è morto, si deve accertare. Ma questo lo sappiamo che deve essere allora accertato. E allora qual è la polemica? No, lui sta dicendo un'altra cosa. Che una viene accusato di omicidio? No, è un'ipotesi. Luciano, dipende se tu hai imposto a qualcuno di impiccarti e di... No. Sì, quando c'è il consenso... Quando c'è... Ma tu sei esperto di giochi erotici? No, mai fatti, purtroppo, perché sono di un'altra generazione. Cioè vorresti partecipare ai giochi erotici, ma non ce l'ho. Potrei fare tranquillamente, sono ancora valido per poterli fare nonostante l'età. Però tu vuoi dire una cosa, che se uno partecipa a un gioco erotico, che è un'ipotesi della vicenda... Di quello che succede, non può essere colpevole di quello che succede. Perché no, dipende se sei stato costretto, è un discorso. Però se non viene dimostrato che l'ha costretto con la forza, non deve essere accusato di niente, perché lei... Ma com'è che ti sta così a cuore questa vicenda? No, perché siccome c'è tutte queste leggi, gli animalisti, i vegani, i gay, che c'entra? Le adozioni, cioè, allora facciamo anche questa. Questa è una cosa che andrebbe promossa, una legge che deve... Si è presa a cuore la vicenda di Firenze, che forse è una cosa che ci ho pensato così, no? Come ho tanto tempo... No, ma non c'è dubbio, Luciano, se uno partecipa volontariamente ad un gioco, a un'orgia, che ne so, responsabilità, no? E poi cade ed è legato ad un balcone così perché è bello e poi cadi, certamente probabilmente non sarebbe... No, ma qui è un po' diverso, Giuseppe, cioè, diciamo che lui abbia sentito la catenella o la cordicella al collo, perché il gioco erotico richiede quella cosa, no? Sì. E è consenziente anche lei. Non capisco di che cosa si stupisce questo signore, cioè del fatto lui che accertino come morta, non ho capito. No, lui vorrebbe che vorrebbe cosa? Se il gioco è consenziente non fosse accusato di nulla. Ma come si fa a sapere prima, scusa, se quella è morta? Questo è chiaro, non lo sa. E allora è una domanda stupida, no, che ha posto. Va bene, fermo. Mi pare. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Allora, adesso ho veramente la convinzione che Cruciani c'ha tre bagarozzi dentro la testa, due girano la corda e uno salta. Ma io dico, ma possibile che te fai inculata a due parole? Idrocolonterapia, quello che se fa i cristeri, la chiama idrocolonterapia. Mo il poliamore, praticamente il poliamore di una che vuole scopare con chi cazzo gli pare, però vuole tenersi la coscienza a posto e si parla di poliamore. Ma io dico, ma che davvero, ma che ce fai, Crucia? Ma ce fai davvero? Cruciani, che voce sexy quando canti cori da stadio, ora ti sognerò lanciare le serenate. Cruciani, ma è possibile che dobbiamo aspettare tanto? Devo ascoltare come 6, 7, 8 trasmissioni per sentire Mauro da Mantova, a volte anche di più. È come vedere la Sampdoria, vedere tante partite della Sampdoria per vedere quante volte gioca Cassano. Ma per favore, dai, mettetelo, fatelo sentire spesso, almeno ci divertiamo, che so sti Salvini, sti chiacchi. Allora, caro Parenzo, nei giorni scorsi il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani si è recata in viaggio in Iran. Uno potrebbe dire, sti cazzi, che ce ne frega a noi dalla Zanzara che la Serracchiani è andata in Iran in viaggio istituzionale, no? Accompagnata, credo, da alcuni esponenti dell'imprenditoria locale. Normale, come si usa in questi casi, di solito viaggi totalmente inutili, di solito. No, stipulano contratti, accordi con la regione, dipende. Potrebbero farlo lo stesso in un altro modo, ma comunque lasciamo perdere, non è questo il punto fondamentale. È andata lì e di fronte alle autorità iraniane ha indossato il velo, che non è un velo classico, comunque si è coperta la testa. Secondo me sbagliatissimo. È a casa loro, non giusto. Dico che si è sottomessa, però ma che come dire, segno di rispetto, ha messo una roba che invece è il simbolo della sottomissione delle donne in quel paese. Cioè è il simbolo della condizione negativa della donna. Ma non è quello, diciamo. Ma comunque il simbolo, a me mi ha incuriosito il fatto che un senatore non della Lega, non un senatore della destra, ma un senatore del Partito Democratico che si chiama Sonego, Lodovico Sonego, senatore del PD, credo friulano, anzi sicuramente friulano, ha detto che era sbagliatissima questa cosa qui, ha criticato moltissimo la Serracchiani. Uno può dire beghe interne, però io una piccola chiamatina, sì, una telefonatina, questo Sonego la farei, così per capire, come butta, perché è così contrario al velo della Serracchiani, che è il vicepresidente del Partito Democratico, il vice segretario, quello che è, in Iran. Pronto? Sì, senatore Sonego? Sì. Buonasera, Radio 24, salve, sono Cruciani. Volevo chiedere una cosa sulla Serracchiani, sul velo. Volevo capire perché lei è contrario al fatto che abbia messo questa specie di velo durante la visita di Stato. Ma per una semplice ragione, che è un'usanza che è stata che in Iran non c'è mai stata, è stata imposta con violenza dal regime teocratico, che non è il caso di assecondare. Cioè il velo, secondo lei, è il simbolo della violenza sulle donne? No, non è il simbolo, è una manifestazione materiale della violenza, perché esiste una casistica infinita in base alla quale le donne che non rispettano questa regola vengono frustate, incarcerate, colpite da getti di acido e cose di questo genere. Mi pare una cosa particolarmente rilevante. Se uno va in quel paese, se uno va là, sa che siccome è casa loro, si deve mettere, a parte che il velo è diverso dal burka, quindi si mette il velo per coprire i capelli. Come quando lei va in chiesa, uno si toglie il cappello, ma non mi pare una questione, guardi, educazione rispetto al paese che ti ospita. Nessuno obbliga ad andare là. Non è una questione di educazione, l'educazione non c'entra niente, è una questione politica e di libertà. Io sono d'accordo con lei. Qualcuno l'ha invitata in Iran. Se uno va in Iran per fare affari, accetta le regole di quel paese, no? Lei mi sta dicendo che siccome pecunia non olet, i diritti umani ce li mettiamo in tasca. Che se uno va là, accetta le per fare quel che deve fare, accetta le regole di quel paese. Lei sta dicendo una cosa che non ha senso, ci pensi bene. Secondo lei poteva andare tranquillamente senza mettersi quel velo, non sarebbe successo niente? Ma io dico che le autorità occidentali devono cominciare a fare esattamente così, non andare lì. Tollerabile. Le ricordo che quando si va in visita dal Papa, sono le donne con si coprano io. I capelli. Le ricordo che quando si va in visita ufficiale dal Papa, io sono contrario ad andare dal Papa con le donne velate. Io sono contrario ad andare dal Papa con la testa velata. Ma lei è un somaro, scusi. Ma no, che... somaro sarà lei, no, è un maleducato. Ma lei, lei, no, lei è un somaro. Perché, e scusi. Si permetta, ah, e non quindi si va dal più. Papa e ci si, non ci si copre i capelli. Ma guarda che è un bel tipo questo qua. No, ma ha ragione lui, dai, su. Ah, ma dal Papa ma, non si ma va con i capelli coperti. Ma no, ma uno può ma andare... è un somaro! Non si... dal Papa, per rispetto, si va e ci si copre i capelli. Somaro! Dov'è? Chiamalo! Basta! Ma chi l'ha detta sta cosa che ci si copre ma i capelli? Chi ma chi lo dice? Ma quale protocollo? Basta! Di cosa? Non ti ha ordinato il dottore di andare dal Papa! Ma io vado se dal Papa come mi pare, e dai! Ti per rispetto ti copri i capelli! Aspetta, aspetta. No, aspetta un caso. Scusi. Scusami però, perché sennò qua io vado ai matti. No, se uno allora, va intanto dal lei, lei non mi dà del tuo, mi dà del lei, perché che io e lei non siamo né capelli né amici né parenti. Quindi mi dia del lei. E secondo, io con uno che mi dà del somaro non parlo. Mi vergogni, lei è una persona maleducata. Politicamente, ma no, questo non passa, Ma ha ragione Sonego, cazzo. Uno dovrebbe andare davanti agli ayatollah. Si è messo agli davanti atti agli ayatollah. Anche con quelli del PD si è messo. Vabbè, agli questo atti, lo sappiamo. Davanti amici. Agli ayatollah, petto in fuori. Allora, in questo caso, non petto in fuori. Dovrebbe andare. No, capelli al vento. Siccome capelli al vento. Davanti agli ayatollah. Andarci, davanti agli ayatollah. Bisogna andare senza velo, cazzo. Per riaffermare la nostra libertà. Tu, ma quale battaglia di libertà? Se tu vai. Con gli ayatollah dobbiamo andare lì davanti agli ayatollah con il velo coperto. Ma quando mai? Ti chiedono di metterti la kippa. Ma quella non è una sinagoga, è un posto pubblico. Se vai in una moschea ti togli ma le scarpe. Ma non è una moschea, è una se visita. Se vai in Iran in visita ufficiale. Comunque hai dato del somaro, hai dato del somaro al senatore Sonego. Politicamente. Il quale ti ha dato del maleducato. Per la prima volta qualcuno in questa trasmissione ti dà del maleducato a te, non a me. Questo è già una cosa di cui dobbiamo prendere atto. Io sottolineerei del Partito Democratico. Per vabbè, visto vabbè, che questo, molti, avevo detto, per carità. Visto che molti mi dicono che sono del PD. Andrea da Bologna, vai. Sai perché? Andrea? Sì, ciao, Andrea, forza, dai, forza. Dai. Allora, senti, io riprendo un po' quel tema dell'inizio delle ragoste e degli astici, no? Sì, allora, sì. Io faccio il cuoco a domicilio a Bologna. Cuoco a domicilio, meraviglioso. Beh, dimmi. Molto bene. Esatto. Adesso sto cucinando. Per cui, bene. Allora, il punto è questo. Il giudice ha detto che quegli astici non potevano stare nel ghiaccio perché si tratta male. Mm. Benissimo, gli astici devono stare nell'acqua ossigenata. Nelle vaschette come nei ristoranti, noi presenti. Perché? Non perché noi vogliamo bene agli astici, perché tutti gli altri pesci li lasciamo morire di morte naturale sul ghiaccio nelle cassette, presente le canocchie che si muovono e poi muoiono lì. Sì. Perché gli astici vanno buttati vivi nell'acqua bollente. Sì, cioè se uno li butta, se uno li butta vivi nell'acqua bollente, tu che fai cuoco, non viola la legge. No, assolutamente. Cioè, non bisogna farli soffrire lasciandoli sul ghiaccio vivi, e questo no, è il punto. No, no. Secondo le leggi. Non bisogna lasciarli soffrire, devono stare negli acquari con l'acqua ossigenata, ma dopo per cuocerli correttamente, sì. Perché non puoi mettere un astice morto a bollire, perché l'astice bisogna morto, buttarli vivi dentro. Bisogna vivi. Buttarli vivi. Cioè, loro si ammette. Salvare gli astici. Certo. Allora ragazzi, ma la cosa incredibile non è tanto questa, la cosa incredibile è un'altra, è che ci siano discussioni infinite in tribunale, eccetera, eccetera, su una domanda: ma l'astice, l'aragosta, soffre sul ghiaccio, sì o no? E su questo si spendono dei quattrini nostri perché le storie vanno a finire in tribunale, eccetera, eccetera. A me, di come vengono trattati gli astici, io farò una differenza, sì, tra il gatto e l'astice. Un po' di differenza la faccio tra il gatto e... scusatemi tanto, ma un po' di differenza tra un gatto, un cane, un astice. Non sono animalista, ma un po' la faccio. A me, se l'astice soffre, non me ne frega una mazza. Lo posso dire o no? Se una ragosta, sarà beh, perché... però è puoi metterla sarà nella perché condizione c'è quella... di stare bene, no? Sì, ma sarà... ma dai, puoi metterla nella condizione sì. di stare bene quanto l'astice. Ragazzi, ma fare l'acqua calda. No, pare che ci siano degli studi. Pare che ci siano degli studi di famosi professori. Di famosi professori di Venezia, per esempio. Che dicono: sono invertebrati eterotermi. Attenzione, non hanno un controllo delle temperature. In quelle condizioni i flussi corporei si afferrano. Si alterano fino a far ghiacciare il sangue. Sicuramente uno shock fisiologico. ragazzi, non ce la posso fare io. Non mi convincerete forte, mai. Beh, i biologi marini non mi avrete mai su questo. A me, di come stanno gli astici, ma i biologi mentre marini, restano, vuol dire che non servono i biologi marini allora. Mentre restano sul ghiaccio, di come stanno le aragoste, non me ne può fregare di meno. Certo, se uno poi deve spendere un sacco di soldi per far stare meglio le aragoste prima di buttarle vive nell'acqua bollente, amico mio, allora ti rendi conto che è una follia, no? Ti rendi conto che è una follia o no? Dai. Allora, Claudio da Asti intanto, vai Claudio. Salve, sono dimmi, Claudio da Asti. Questo lo sappiamo. Parlare... scusa, volevo parlare inerente alla... a una cosa che avete detto ieri. Parenzo ha insultato un napoletano, sì, che diceva che Hitler... lui aveva fatto un paragone su Hitler, no? Lui, non se vi ricordate ieri. Questo sì, napoletano. Un napoletano, lui che è venuto a insultarlo. Ah, sì, sì, io sì, volevo solo, sì, dire una cosa a Parenzo. Sì. A prescindere... sono d'accordo che Hitler abbia sbagliato, no? Ecco. Però cosa ne pensa delle due bombe su Hiroshima sganciate dagli americani? Adesso, ma che ce ne frega? Non ce la faccio, ragazzi, ma sono le 19.46, siamo nel 2015. No, del coglione a uno che dice una cosa, secondo me, che ci può anche stare. No, non ci poteva stare. Raccontarla, non dire cazzate, storia. Non ci poteva perché, stare. No, le cazzate dite voi, perché Stalin ha ammazzati più di Hitler. Ma che c'entra adesso? Quello ha detto, quello ha detto che discussione è? L'ascoltatore di ieri. Una persona, ma che discussione è? L'ascoltatore di ieri. Che discussione è? La discussione è che tu hai dato del coglione a una persona. Beh, che ti ha detto che stavolta devo dire arabi ci vorrebbe magari un mese di Hitler, quando tu non dici che gli americani per mettere a posto la seconda guerra mondiale hanno ammazzato 200 bambini. Io ma per dire che scusami, Hitler, Claudio, mamma mia. Claudio, cosa dire per sostenere, per siete voi. Aspetta, fermo lì, fermo. Non esiste ammazzare le persone, né che siano dittatori né che no. Allora, in nome della democrazia sicuramente qualche volta si fanno dei crimini, non c'è dubbio, però caro Claudio, per dire a uno che ha detto una cazzata non è che bisogna fare la storia della seconda guerra mondiale, eh? Ciao Claudio, ciao, ciao. Allora, grande ritorno alla Zanzara, è con noi Giulietto Chiesa, buonasera, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene. Procediamo? Siamo vivi già è qualcosa, essere vivi già è qualcosa. Vive e combatte. È già una grande scommessa. Una grande scommessa. Allora, io voglio capire cosa ne pensa Giulietto Chiesa, ho letto qualcosina sulla vicenda Colonia. Parenzo, ti prego, lasciamo parlare, no, poi no, spieghiamo, no, facciamo tutte le polemiche che vogliamo. Calma, tranquillità, come direbbe Prodi. Com'è che direbbe Prodi? Prodi direbbe calma, pacatezza, tranquillità, serenità, no aggressività, no zanzara. Fate presto però con calma. Tutto tranquillo, con toni bassi, moderazione, no complotti. Meglio andare in chiesa che Giulietto, tutto tranquillo. Tutto... Come meglio andare in chiesa? Ah, meglio andare in chiesa? No, meglio chiesa, la chiesa. Meglio la chiesa di Giulietto, Giulietto che di Giulietto. No complotti, tutto è sereno, non c'è motivo di alzare la voce. Magari ci sono delle bombe, però con calma, tranquillo. Allora, Giulietto, io voglio sapere una cosa. Secondo te, quello che ci è stato raccontato, l'Islam, quello su di cui parliamo, cosa, anche scusa, noi, Colonia, neanche... Colonia. Ah, Islam, Colonia. Islam, violenze, stupri. Che c'è dietro? Vediamo. È tutto vero oppure ci stanno raccontando una cosa finta? No, secondo me ci stanno raccontando una cosa abbastanza finta, con sì, qualche pennellata di vero. Sì. Però la versione di Colonia non mi convince. Ma non perché convince, non ti convince? Non convince migliaia di persone, tra l'altro l'ho scritto su Facebook e ho visto che le reazioni sono state, tutti hanno pensato la stessa cosa, non tutti lo possono dire, non tutti se la sentono, ma io lo dico perché... Cioè tu hai parlato di montatura mediatica, che significa una montatura? Montatura mediatica perché non sta in piedi l'idea che a Colonia, io inviterei tutti a riflettere, come mai Colonia? Come mai Colonia e come mai in Turchia, a Istanbul scoppia una bomba che colpisce i tedeschi? Sì, questo è vero, la bomba turisti, colpisce i turisti. Beh, però, però molti tedeschi, però, italiani, turisti, però col passaporto tedesco. E qual è il legame, tra le due cose? C'è un legame. Io credo che se guardiamo l'anno passato, i due attentati terroristici a Parigi, e guardiamo quello che sta accadendo adesso in rapida successione alla Germania, mi viene in mente un'idea. Mm. Che su Qual è? Gli ascoltatori. Che ci sia due paesi, che sono due grandi paesi europei, che sono le colonne dell'Europa attuale, che a me non piace, ma sì, constato che sono le colonne dell'Europa, che sono sottoposti a un evidente attacco, non ai popoli, sto parlando degli stati, e sto parlando anche dei capi di questi sì, stati, cioè Hollande e Merkel. Mi sembra di capire che c'è qualcheduno che ha intenzione di colpire questi stati, di sottoporre questi stati. Per arrivare a che cosa? Per arrivare a un indebolimento dell'Europa. Io ritengo che ci sia il desiderio, poi ciascuno dirà quello che ritiene opportuno, ma io vedo... Cioè di ridurre le libertà, di che cosa? Beh, intanto per cominciare a ricondurre all'ordine, diciamo così, stati... Che aspetta sono che ti portati. Sento male, Giulietto, non muovere il telefono. Allora, no, tu dici, scusami, tanto per far capire... Un complotto, il telefono. Sì. Tanto per far capire, tu dici, non credi alla versione, diciamo, di uno stupro di massa perché sono islamici, tentato, e perché sono famelici, diciamo, da questo punto di vista. Non ci credi a questa cosa? No, ci credo. Questa è una componente. Naturalmente si è usato una situazione. Ci sono migliaia di persone che non hanno lavoro, non hanno reddito, oh, non d'accordo, hanno nulla. Si trovano all'improvviso in una società che credevano, che interpretano in un certo modo, perché la vedono sui loro cellulari a distanza di migliaia di chilometri, arrivano qui. E chi li ha usati? Chi li ha usati? Sono stati usati da qualcuno che ha molti soldi, che può quindi gettare una bella valigiata o alcune valigiate piene di euro sì, in mano a gente che si trova improvvisamente qualche cosa e gli si dice fai, perché puoi fare. Ti invita a fare, cioè ti invita allo stupro, diciamo, a quello che viene chiamato stupro sì, di massa, perché, diciamo, sì, no? Tutti noi sappiamo, e questi sarebbero alcuni occidentali che finanziano sta roba, ovviamente, per nella sua idea. Appunto, citando Prodi, calma, ti faccio un esempio. Abbiamo avuto per anni l'Albania, che era piena di gente che pensava che l'Italia fosse un posto dove le donne erano tutte seminude, dove tutte si esibivano, dove tutte erano disponibili. Ma che cosa avevano ricavato? Migliaia di albanesi, di giovani albanesi, questa idea, guardando le nostre televisioni. Stavano dall'altra parte del mare, le vedevano, ma e come si è poi verificato, moltissimi di loro pensavano che questa fosse la norma. E quindi loro sono pensando che le donne sarebbero mica un complotto, disponibili. Vabbè, questo qua però non fa parte, diciamo, è una di una percezione distorta di del complotto. E invece però, secondo te, qualcuno ha approfittato di questa situazione per mettere nelle mani di queste persone dei soldi, del denaro, spronandoli a fare delle cose, per quale situazione, con quale obiettivo? Con quale obiettivo, scusami Giulietta? Te l'ho detto prima, l'obiettivo è quello di colpire la Germania, di mettere in difficoltà la Germania come stato, la Germania ha una responsabilità, che è quella di avere aperto agli immigrati. Sì. Ci sono forze che hanno l'intenzione, io sono certo di questo, di estendere il disordine, la paura, la guerra. Estendere la paura e il disordine, ma chi l'avrebbe fatto? Gli Stati Uniti? La CIA. Diciamo che io sono sostenitore di una teoria abbastanza semplice, e che è che esiste un centro che vuole questa cosa. L'aspetto. Cioè un centro politico che non è soltanto composto esiste nel 007 o da quelli che hanno finanziato l'ISIS, un centro dove esistono e agiscono. Ma il centro dov'è dislocato? Materialmente dov'è dislocato questo centro, questa specie di spectre? Non saprei, se lo sapessi. Però di chi fa parte di questo centro? Agenti americani, israeliani? Questo... Sì, sicuramente ci sono dei pezzi, dei settori che lavorano per conto loro e che si sono messi d'accordo. Non è un paese solo che agisce in questa direzione, ci sono degli interessi. Cioè americani, israeliani poi? Faccio un esempio per gli ascoltatori più forti. Andatevi a guardare i 3 giorni del Condor. Sì. Magnifico, sì, film straordinario. Sì. E ne hai visti troppi di quelli, tu? Chiaramente descritte. Ne hai visti troppi di quei film dei 3 giorni del Condor? Negli anni 60 c'era a disposizione un materiale straordinario. Ho capito. Allora, dunque, ricapitoliamo. Scusami, Giulietto. No, ma non c'è da ricapitolare. C'è un attimo da fermarsi. La gente che ascolta pensa sia vero. Stabilizzare l'Europa. Pezzi di Stato per no, ma scusami, però. Non sono gli islamici. Vorrei che fosse chiaro. Non si spaventasse. Questo centro non è composto solo di islamici e meno che mai di fanatici islamisti. Vabbè. Questo centro è composto di persone che hanno miliardi da spendere a disposizione. Musica di 007. Creare il disordine in Europa. Riuscite a mettere la Spectre. Hai visto il film Spectre, l'ultimo di 007? Molto bello. Beh, che c'entra questo? E io penso che in questi casi qualcuno di questi film abbia proprio pescato. Esiste la Spectre. Scusa, che c'entra questo qua però con l'uccisione dei 10? Ha detto che c'è la Spectre. No, dei tedeschi, anche lì uguale, la stessa cosa. Spectre fa parte del piano. Cioè, non credi che quel siriano là dell'ISIS, tu non credi al siriano dell'ISIS? Ma riflettete, ragazzi, perché il problema è che è successo a Colonia, e Colonia sta in Germania. La domanda è: perché non è successo a Roma? Perché non è successo ancora a Parigi o a Londra? Come mai sono colpite sempre due capitali, due paesi che sono i due pilastri dell'Europa? Però per essere più concreti, Giulietto, questa centrale. Più concreti di così, la Spectre, t'ha detto, questa centrale, tu stai dicendo, no? Questa centrale, chi è composta? Dai, diciamo, secondo quello che tu pensi, secondo quello. Da chi è composta non te lo so no, dire. No, da chi nomi e cognomi, da pezzi di servizi segreti americani, poi? Io ti ho risposto due minuti fa, ti ho detto che esiste sicuramente un gruppo di servizi segreti, pezzi, ripeto, non dei servizi segreti. Pezzi di servizi segreti, sì. Troppi film. È troppo banale così. In realtà, per quello che ho citato i tre giorni del Condor di Sydney. Beh, ma le nazionalità chi sono? Americani, poi? Con Robert Redford. Vabbè. Ci sono tre o quattro servizi segreti che possono avere forti interessi. Questi, diciamo, le nazionalità, Stati Uniti, poi? Perché, per esempio, qualcuno mi deve spiegare come mai l'Inghilterra è sempre fuori, come mai tutto questo succede solo in questo momento in Francia e Germania. Francia e Germania. Questa è una riflessione. Per cui le nazionalità sono, e questo qua l'abbiamo capito, le nazionalità sarebbero pezzi di servizi segreti americani, israeliani, poi turchi? No. Turchi sicuramente. Sicuramente. Inglesi? Arabia Saudita sicuramente. Sicuramente. Guarda, questi già per esempio sono obiettivi che io metterei nel mirino se fossi un magistrato che fa queste indagini. Magistrato che fa queste indagini? Fermiamoci un attimo, poi torniamo per un minuto finale con Giulietto Chiesa, la Spectre causa degli attentati e dei fatti di Colonia. Pronto, buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilerata. La Zanzara. Allora, io voglio salutare Giulietto Chiesa e la sua Pandora TV, caro Giulietto, dicendo, ricapitolando però questa teoria molto affascinante, Parenzo, che no, tu ne dica. No, non ricapitolare niente. Cioè, per te è un delirio, per te è un delirio. Ma basta. È una straordinaria sceneggiatura di un uomo che è stato un grande giornalista, che ha girato il mondo e che ha visto tanti film gialli molto molto belli. Stai dicendo che è semplicemente un romanziere, praticamente. Un grande talento. Devo fare complimenti questa volta. Questa sera siete stati davvero, davvero inconsueti, ragazzi. Un romanziere di grande talento. Modificando la vostra linea, cioè? Ordito. Cioè, in che senso, Giulietto? No, non mi avete aggredito, come al solito. Aggredito. Ti ho detto che fai romanziere. Più di si può aggredire in tanti modi, però. Il romanzo è quanto di più distante dal giornalismo, ma poco male. No, però volevo ricapitolare prima. Allora, tu dici, dietro la strage di Istanbul, per esempio, dove sono morti dei turisti tedeschi, dietro i fatti di Colonia, c'è la Spectre, dietro anche i recenti fatti di Parigi, c'è una centrale dove ci sono spezzoni di servizi segreti che vogliono destabilizzare l'Europa per diminuire le nostre libertà, giusto? Correggimi. Non solo, ma per punire degli alleati che non sono stati allineati. Per motivi poi alla fine economici, dici tu. Tu sai benissimo che io ho già detto che ritengo che lo scandalo della Volkswagen non sia niente affatto un elemento casuale e, come dire, secondario. La Volkswagen è stato un colpo che gli Stati Uniti hanno inferto direttamente alla Germania. Cioè, le multinazionali governano il mondo, secondo te? Sì, sì, sicuramente. E influiscono. No, le multinazionali sono le banche che governano il mondo. Banche, sono multinazionali, grandi centri finanziari mondiali che governano tutto il mondo e tutti i governi. E alla fine, tramite questi agenti, eccetera, influiscono anche su episodi, che ne so, sull'uccisione di una dei. Dunque, uno che ha a cuore la democrazia dovrebbe andare. Se mi lasci dire questa cosa, ti do un elemento di chiarimento. Io vedi, l'anno scorso, nel 2014, o meglio, nel 2014, quando all'inizio del 2015, quando la signora Merkel e il signor Hollande sono andati a Mosca senza nessun americano. E sono andati a trattare con Putin la fine della guerra in Ucraina. Sì. Io ritengo che questo ha fatto imbestialire, letteralmente imbestialire, delle forze che stavano oscure, caso, tu dici oscure. A Washington, sì, che volevano invece che quella guerra andasse fino in fondo. Invece la signora Merkel e questo presidente Hollande hanno detto basta questa guerra e si sono messi in ma secondo te Israele permettimi vedi la suggestione è questa: uno da una qualsiasi cosa può trarre una suggestione, la differenza che c'è tra il romanzo e il giornalismo è esattamente questa, cioè il giornalismo si basa su documenti, fatti. Niente. Io non ho nessuna certezza. Ho detto che il giornalismo si basa su documenti e su fatti. Un'ipotesi più costruttiva. Ma non è un'ipotesi, è una spy story, è una sceneggiatura. Le fandonie che vi raccontano i servizi segreti. È una sceneggiatura. Voi credete alle fandonie che vi raccontano coloro che vogliono Tarantino. Rovinarvi la vita. Prego, accomodatevi. Ma è il tenente Colombo, non è una sceneggiatura. Più interessante. Ma scusa, ma se Giulietto vuole andare oltre la versione ufficiale e cerca delle altre cose che spesso ci sono, abbi pazienza. Anche tu sei un bel tipo, tu pur di sposare qualunque cosa che il giornalismo si basa sui fatti, io ascolto e osservo e spesso non mi convincono alcune cose. Ma il giornalismo cose. È basato sui fatti, poi ci sono i commenti che sono importanti. Non facciamo il dibattito sul giornalismo. Ma io ti dico semplicemente che o uno porta delle prove, dei fatti, documenti, un'intercettazione, io ho appena citato un fatto. Ma quali fatti? Un incontro che è alla luce del sole che c'è stato e che è evidente che c'è stato. Certo, cosa dimostra? Sembra Mario Mauro da Mantova. Guerra, però. Dice: sei incontrato De Benedetti? Sì, certo, è andato in Svizzera. Ragazzo, quindi, e allora? Ma che idea hai di fatti? Ma che idea hai tu? Scusami, dice: scusami, secondo lavora te... Radio 24. Mamma mia, cazzo, è vero? E quindi? Ma dice: sì, lavora lì. Qui. È ebreo. Perché Radio 24? Dice, no, ma cosa c'entra quello? Radio 24 è la Confindustria. Scusa, posso fare... Però i poteri forti! Ma che cazzo c'entra? Cioè, metti insieme delle cose che non però stanno posso dire insieme una cosa, Giulietto, e costruisce una teoria, questo è il punto. Tu pensi che Israele sia un male per il mondo? Israele? No, chi ha mai detto una cosa del genere? No, una domanda. L'attuale dirigente politico degli Stati di Israele è un signore pericoloso, è un fanatico, sì, religioso, che vuole fare la grande Israele, e questo è un pericolo. Ma che religioso Netanyahu? Ma quale cioè, religioso? È un laico Netanyahu? Aspetta, è un criminale di guerra secondo te? È un criminale di guerra sicuramente, perché quello che hanno fatto con l'operazione più ma Hamas è un pericolo sarà, ma io non lo so, ma guarda, è incredibile, non è perdonabile da nessuna civiltà normale. Ma guarda che è incredibile, cioè, Israele non c'entra, ma è assimilabile qualcuno, ma Hamas è un pericolo, aspetta, non un capo di Stato. Aspetta, scusami per concludere Giulietto, tu pensi che alcune operazioni siano simili a quelle che hanno fatto i nazisti da parte di Israele? Quello che ha fatto l'operazione Piombo Fuso, mi riferisco specificamente a quella, è stato un crimine di guerra che, ma se fosse in un mondo civile, dovrebbe essere, dovrebbe impedire a Netanyahu di muoversi ma fuori dai un'azione di difesa dei cittadini israeliani. Mi fai fare le domande un attimo. Ma no, ma non è questione di domande, è questione però di dirgli delle cose. Perché, non c'è bisogno di difendere. Non c'è bisogno ma di... non voglio difendere, ma è un dato di fatto, un'operazione però, per difendere vabbè, i cittadini israeliani dagli attacchi kamikaze. Ma questa è la tua opinione. Ah, non ci sono gli attacchi kamikaze. Io voglio capire una cosa, non ci sono i kamikaze. È uguale i kamikaze, chi li paga? Stai Israele fermo kamikaze. Un attimo, mi fai chiedere una cosa. Allora, la cosa che voglio chiedere è simile ad azioni di guerra compiute dai nazisti? Sì, in questo caso specifico, delirio, esattamente sì, perché si è bombardata la popolazione civile in modo indiscriminato. Dunque, in alcuni casi Israele si comporta come i nazisti. Siamo al delirio proprio. In alcuni casi Israele si è comportata, Israele come sotto peggio la guida come persone, fai a dire come una follia simile. Si è comportata in modo nazista. Ma è, ma è una cosa incredibile, dire. Incredibile lo Stato nazista paragonato ad Israele, lì facevano la soluzione finale, qui c'è un paese che si sta difendendo da chi li vuole morti, da Hamas, dai terroristi islamici, dai kamikaze, ma siamo alla follia pura, uno può dire qualunque cosa, per carità, il mondo libero è bello per questo, ma ci sono i manicomi anche. Sì, vabbè, ma tu sei uno che è capace soltanto di insultare la gente. Ma non di insultare, a me le follie mi mandano i matti. Della guerra, sei un terrorista, sionista, sei un terrorista travestito da giornalista. Certo. Tu sei un propagandista della guerra e inviti ascoltami, la gente a credere alle balle che ci raccontano quelli che ci vogliono portare in guerra. Ecco quello che sei. Nient'altro che un omuncolo che un fa il lavoro, personaggio il lavoro incredibile ormai. Dire che era un bravo giornalista una volta, incredibile, bene, cosa non si fa per la notorietà, incredibile. Incredibile proprio, incredibile. In che mondo vive? Questo stai facendo e questo sei incredibile, e cosa non si fa per non finire sui giornali, come incredibile. Sei finito, ma questo non è il concorso di chi la spara la stronzata più grossa, credi, di fare dell'ironia. Guarda, amico mio, che questo non è il concorso della stronzata più grossa. Sei non si vincono premi qua, eh. Non si vincono premi qua. Sempre, capito? Incredibile. Ma quindi, scusami, i terroristi. No, basta, fammi capire. Basta. I terroristi di Hamas sono pagati da Israele per farsi esplodere, quindi? Fammi capire, i kamikaze sarebbero pagati da chi per farsi esplodere? Sono dei soldati israeliani camuffati, te lo dico io. Te lo dico io la teoria qual è. I terroristi di Hamas in realtà sono soldati israeliani camuffati per scatenare la reazione del, del Tribunale. Ma non l'ha detto, veramente. Ma vaffanculo. Ma non l'ha detto, ma non l'ha detto, lo stai dicendo tu. Stupidaggini. I terroristi esistono? Io un provocatore. Allora i terroristi, oggettivamente i terroristi che si fanno esplodere con le cinture. Se vuole lo dice. Seguendo la sua teoria sarebbero dei soldati israeliani camuffati da fondamentalisti. Ma siamo al delirio. Delirio. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao Giulietto, ciao. Delirio psicotico. Tu da Cruciani ti capisco che tu hai a che fare con una persona, ma perché non lo cacci via un saltrone? Giocate. Eccolo il democratico. Eccolo il democratico. Fammi decidere, fai decidere me chi fare partecipare a questa trasmissione. Vabbè, no, è un suggerimento da ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Come lotta Parenzo stasera, come lotta, così la voglio, io ti vorrei sempre così, sempre. No, però non si può, cioè tu capisco che assecondi queste cose. Io non ho secondato nulla, io ho ascoltato il vostro scontro, no, io ascolto tutte le teorie, tu sì, capisco però, che quando si tratta di Israele perdi il controllo. Il mio lavoro vabbè, d'accordo. Non perdo nessun controllo. Beh, un po' sì, dai, ma provo, è normale che sia da così. Giornalista, no, da giornalista, ma tu perdi il controllo. A basarmi sul, no, io vabbè, sono a favore dei commenti, però, no, ma non è qua d'accordo o non d'accordo. Tu perdi un po' il controllo non quando si tratta di controllo. Poi è vero, dai, perdo il controllo di fronte alle cose non vere. Vabbè, ma d'accordo, ma perché quello... io sono pronto a discutere di opinioni. Beh. Sono il primo che dice opinioni sì, tu, personali. Tu però quando si tratta di Israele, ma diciamo ti chiedo la verità. Scusa però. Va bene. Allora dai, un po' perdi il controllo. Ti chiedo scusa se dico che quando ci sono opinioni sono guerre di opinioni. Quando si parla di fatti, quello fa il giornalista cosiddetto, no? Ma quello ha detto una sua opinione sulle azioni israeliane. E allora io ho scherzato, che io non condivido, per esempio. Ma allora io non condivido. Ho usato lo stesso strumento per demolire un'opinione idiota. E lo strumento vabbè, capito, qual è? Però un'opinione non è che ha detto delle falsità, ha detto lui ammantava questo come teoria no, di come detto, sono andate le cose. Lui ha detto, lui vabbè, ha paragonato ma alcune operazioni solo le opinioni. No. Non esiste il giornalismo, i fatti, però, le scusami, cose. Scusami Davide, lui ha paragonato alcune operazioni. Sì, ma provava a giustificare da un punto di vista giornalistico, ma cioè no, vabbè, fatti... ma adesso non addentriamoci in questa cosa, dai. Vabbè. E allora tutto male, chiamo qualunque idiota e dice qualunque roba, dici, ma dai, boh, forse è vero. Ho sentito che non è così. Tu sei pieno di luoghi comuni, Cruciani. Sei un luogo comune fatto persona. La Zanzara. Ti sto vedendo dalla webcam, ma che sei tipo Cruciani durante gli intervalli ogni tanto quando si incazza. Con chi stavi parlando? Grazie. Pronto? Grazie molto. Ma Davide, con chi stavi parlando? Scusa. Fatti i cazzi tuoi, sto facendo un'intervista al Messaggero con Veneto. Con i servizi segreti. No, lo so, no, sto facendo un'intervista al Messaggero Veneto che mi hanno chiamato perché hanno sentito che ho dato del somaro a un senatore. Allora il Messaggero Veneto mi ha telefonato e mi ha chiesto un commento sulla cosa e ho fatto... Signor Sonego, Ho fatto una dichiarazione. Mi hanno chiesto una cosa, ho fatto una dichiarazione. Ho spiegato. Allora, gli amici del Messaggero Veneto che sono sicuramente all'ascolto, grandissimo direttore del Messaggero Veneto che si chiama, ricordiamolo, signor Tommaso Cerno, ottima persona, brava autore persona. di un ottimo libro che credo che si chiami Fascisti o sbaglio, una cosa no, del genere. Non si chiama come Fascisti, si chiama? Non si chiama, a noi, ma come, voglio dire questo, io sono d'accordo con Sonego. Sono d'accordo con Sonego. Ma non te l'hanno chiesto, però. Ma però glielo dico. Però lo dico. Si chiama cosa non richiesto. Anch'io, ma non te l'hanno chiesto. Dice, perché lei. Se vuoi, però adesso dai che ti chiami. Dice, no, io sono non voglio che mi chiami. Io ho detto che è un somaro politico, quindi chiedo scusa. Sì, ai somari, vabbè, ma tu anche, devi. Addirittura chiedi scusa ai somari. Chiedi, no, io ho detto a parte che tu sei veramente un vigliacco. Sei veramente un vigliacco. Perché gli hai detto somaro. Gli hai detto somaro, ma hai aggiunto. Sì, sei un po' vigliacco. Perché hai detto. No, sei un po' vigliacco. Perché hai detto somaro e politico, poi hai certo. detto no, l'hai detto dopo, sei un somaro, sì, ovvio, hai detto chiaro, all'inizio, somaro politico, somaro politico. Evidente, parliamo di politica, ma che, mica che di, sei? Mica di cucina, un somaro politico. Ma non è che somaro, hai detto sei un somaro, cioè non sai sì, niente, somaro, non sai niente. Dal punto di vista politico non vabbè, sai, certo, ignori. Ma che ignori. Vuol dire? È chiaro che quando fai un paragone non è che lo hai paragonato a un somaro come a un animale, però è come dire ignorante, è come dire ignorante. Che politicamente sicuramente. Ma no, politicamente, ignorante in generale. In generale non lo so, perché invece mi sembra che sia un matematico. Non lo so cos'è, ma quello che è, nel suo materia sarà molto competente, invece, non è vero. Sulla questione politica dell'Iran e del velo anche dal ha ragione Papa, lui. È ha ragione politicamente lui. Ha un somaro. Ha ragione però lui. Se si è offeso gli chiedo scusa. Ha ragione, non tanto mai hai detto pure nessuno. Una cazzata sul fatto, credo, non bisogna mai offendere nessuno. O forse me l'hai detto a me in privato, non mi ricordo, che la Bonino andò dal Papa con... Ho detto che... Ma è una cazzata, perché la Bonino andò dal Papa con la testa coperta, perché era malata. Cioè, sì, quello senza dubbio, allora, perché faceva una terapia. Ma che in generale, quando uno si trova in un contesto di invito a casa di un altro... rispetta allora, quella regola. Mi invita Al Capone, moschea, mi invita Al Capone a casa, ti... mi invita Al Capone, mi presento. No, che però, ne so. Siccome non te l'ha chiesto il medico di andare in Iran a fare degli affari con quel paese, se vai là è evidente che rispetti non le è regole. Previsto, ad non esempio, è previsto. Non ti presenti con un dono, un Jack Daniels come dono, dici tieni Camanè, tieni Imam, ti ho portato un dono. Che tanto quello se lo beve in privato, se lo beve in privato per i cazzi suoi. Non è che nei regali ufficiali tu gli come se tu vai in visita dal Papa, non è che gli dici fratello, tieni il preservativo. Sarebbe inelegante come dono. Beh, di Stato. Tu sai che io lo farei. Capisci il paradosso? Ma infatti il Papa non ti invita. Ma voglio dire, capisci il paradosso qual è? Che se vai dal Papa non gli regali la pillola del persona, giorno aspetta, dopo. Aspetta, c'è una ma persona. Ma lo capite o no? Sì, no, sì, vabbè, lui parlava di un'altra cosa, se no, con dei diritti civili. Belen, come andrebbe vestita dal Papa? Mi scrive giustamente l'Osservatore Romano. Mi scrive adesso un SMS all'Osservatore sì, vabbè, ragazzi, Romano. Bisogna avere Belen, il coraggio di andare di fronte a questi ayatollah. Andrebbe vestita non da Belen con la farfallina, vabbè, ma andrebbe dai, vestita con questo... un cappello e un velo in segno di rispetto. No, ma rispetto, o lo capite ma o non lo capite. Ma siccome questo velo in Iran significa oppressione, il presidente di una regione va lì solo. E si va con i capelli sciolti, come è normale che sia. Le donne occidentali, noi siamo fatti così, non ci rompete i coglioni. Una idiozia rara. Va bene, Mario da Pistoia, dai Mario, forza. Mario. Sì, volevo alleggerire un attimo. Alleggerisci, vai che è meglio, sì, vai. La visione del complotto, strategia mondiale, va messa un po' niente. Chi è questo? Buongiorno, sì, chi è? Ciao, sono un ex campione della Sai l'ultima, siccome a volte... Ah, la Sai amici, l'ultima, te. Farli ridere, giusto, gli racconto solo la barzelletta. Straordinario programma, la Sai l'ultima, sì, Mario. Non lo so, adesso glielo dico, sì, grazie. No, ciao. Allora, aspetta, aspetta no, un attimo. Aveva il cappotto col bavero rossato, il cappello con la visiera tira giù, ci ho detto, ma cosa è successo? Cosa hai fatto? E lui mi ha detto, ma niente, ma cosa è successo? Guarda lì, sei pieno di graffi in faccia, ma niente, ma come sei tutto graffiato? E sei stato a seppellire mia suocera ieri, e come hai fatto questi graffi? Lei non voleva? Ma, ecco. Mario, però raccontamela senza fare finta di essere qualcuno che non conosciamo, magari. Allora, no, tu sei un ex campione di La Sai l'ultima. Adesso ci posso anche ripensarci sul fatto che hanno giudicato bene o male all'epoca. Non so come è venuto in radio. Cioè, no, non so come è venuto, come è accaduto che tu hai vinto La Sai l'ultima, soprattutto dopo questa perché barzelletta. Non si sente niente? No, si sentiva poco e soprattutto non si è capito assolutamente nulla della ironia di questa roba. Allora, raccontamela bene adesso. Come fa? Come fa la storia? Ci sono gli amici che si incontrano. Cosa faccio? Guarda lì, cosa si è pieno di graffi in faccia. Sì. Ma niente. Ma dai, ma sei pieno di graffi, cosa è successo? E sono stato a seppellire mia suocera. E poi cosa hai fatto con tutti questi graffi? E lei non voleva? Scusa, quando hai vinto? Adesso l'ho capita. È vecchia 95. Questa, però è... Nel 95 hai vinto La Sai l'ultima. Non è che sei come Giannino, no? Che ha detto no, ho fatto. È sicuro, è certificato, no? Finali e finali, sì. Poi in finale non vinci, insomma. Ah, per cui non hai vinto. No, il campione di una puntata. Ah, il campione di una puntata. Sì, eravate, eravamo fuori tempo, non c'è stata incoronazione, ma non cacciò. Dobbiamo andare via, dobbiamo andare via. Ciao, vabbè, grazie comunque. Mario. Ciao. Traffico. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Che orrore questo poliamore, che orrore, che orrore. I preservativi costano un botto, quelli devono diminuire, così scoperebbero tutti di più e romperebbero meno le palle. Oh, non vi siete accorti che questa Fulvia Pellegrino, quel transessuale che avete intervistato lunedì, quando era un uomo era identico a Dario Argento. Lì, ho visto la foto su internet, lì mortacci, identico. Tutto sommato ha fatto quasi bene a trasformarsi in questa maniera. Ciao! La chiamata delle 7 qua in Senegal, il miglior momento per vedere dei gran culi di donna all'aria. E io intanto mi bevo un bel champagnino alla faccia del cazzo. Ciao. Ma io trovo questa cosa straordinaria, Parenzo, molto blasfema naturalmente, no? Però, no, ma è stupida perché non è vero. Sì, perché lui mi ha spiegato dopo, mi ha mandato un messaggio al mitico numero 393 71 71 701. Io gli ho risposto e gli ho detto: amico mio, ma perché risentiamo? Sono però uomini perché che lo... esattamente pochi istanti fa, perché siamo un'ora avanti rispetto al Senegal, questo signore occidentale, cristiano, magari bianco, credo, a Dakar, penso, immagino, osservava dalla sua finestra, non so da dove, la preghiera della sera. Però in genere sono solo uomini che la fanno. Esatto, ed è per questo che lui dice quella roba lì. Senti, risentiamo, all'inizio si sente la voce del allora. Il muezzin con gli altoparlanti, sì, bravo, Dakar, sì. Senegal, meraviglioso. Cruciani, la chiamata delle 7 qua in Senegal, il miglior momento per vedere dei gran culi di donna all'aria. E io intanto mi bevo un bel champagnino alla faccia del cazzo. Ciao. Beh, alla faccia del cazzo non riesco a capire che significa, comunque. Sarà un'espressione. Sì, un'espressione romagnola, credo, sì. No? Bolognese, eccetera. Però mi ha spiegato, ma perché. C'è anche da spiegare. Sì, no, ma c'è assolutamente da spiegare, perché sennò ogni cosa va spiegata. Perché lui dice dei gran culi a quell'ora, no? All'aria. Anch'io me lo sono chiesto. Perché le donne stanno tutte fuori, escluse, e alla chiamata si inchinano ad Allah. Ayalla mi ha scritto, che penso che lui ma no, intenda. Guarda che non è esattamente ma così. Che ti devo dire, questo dal Senegal, perché poi dal Senegal, perché il telefonino è dal Senegal. Gli uomini stanno dentro la moschea e si tolgono le ciabatte. Allah ne sapeva una più del diavolo. A me fa impazzire questa cosa, voci dal Senegal, meraviglioso. Francesco da Bergamo, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Buonasera. Allora, velocissimo, io lo chiamavo per la faccenda di quarto. Onestamente non entro nel merito, io sono un attivista, un simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Sì. Dico solo una cosa, dico la prima cosa, la signora sindachessa, chiamiamola così, sì, quando sì. Quando ha scelto di fare una lista 5 Stelle, conosceva esattamente le regole. Ora, che poi queste regole uno possa, che al di fuori, possa non capire, possa essere contro tutto quello che vuoi. Ma se tu entri in questo movimento, lo sai, sai benissimo che le regole sono quelle. Devi mettere in conto... No, però in questi casi però non c'è nessuna regola che è stata infranta. No, cioè, aspetta, non c'è alcuna aspetta, regola, no, scusami, no, abbi pazienza. Aspetta, qui non è stata infranta alcuna regola. È una regola morale. Cioè, oggi Di Battista in un'intervista... Io fossi stato, ma qual è la regola? Ma che vuol dire la regola morale? Io fossi stato il sindaco al posto suo, avendo questa problematica, avrei dato le dimissioni, non perché per il problema della perché cosa? Non per il problema della camorra perché che cosa? È enorme e non deve esserci comunque. Vabbè, e perché cosa avresti dato le dimissioni? Scusami. Solo a quarto è veramente una cosa imbarazzante. Ma detto questo, doveva darle perché? Proprio per dimostrare che uno, non siamo assolutamente legati alla poltrona, due, mi ricandidavo e mi ripresentavo con un'altra lista, sempre 5 Stelle, per dimostrare che vincevamo, no, però, perché Francesco, se il lavoro ma non è che, è stato non è fatto che fare è le... buono... Non è che essere eletto che sindaco sia una... sei di proprietà di Grillo e di Casaleggio. Ma cosa cioè, c'entra? Ma non è questo il punto. Non è indagata. Già si potrebbe... scusami un attimo, già si potrebbe discutere neanche, se uno è indagato si deve dimettere. Neanche Marino era indagato, eppure il PD l'ha cazziato. Ma quello c'era un, c'era un problema di mancanza di fiducia altri. Politica. C'era un problema di mancanza di fiducia politica. Qui, no, a parte che qui all'inizio non è stato così. Dopo dice che hanno ascoltato le intercettazioni. La cosa mi pare un po' assurda. In cui si sostiene che lei era ricattata. Amico mio, lei dice di non essere stata ricattata. Lei dice di non essere stata ricattata. No, però il paragone che fa lui l'ascoltatore con Marino non è sbagliato. Cioè, se si rompe, premesso che per me deve rimanere al suo posto, ma se si rompe il rapporto di fiducia, questo dice tra chi l'ha voluta lì, che sono i cittadini, ma anche il suo movimento, cioè vale per qualunque partito, no? Infatti ero contrario alle dimissioni di Marino. Io ero contrario anche alle dimissioni di Marino. Sì, però da un punto di vista politico i 5 Stelle possono dire non c'è più la nostra fiducia, per noi non è più la nostra iscritta, quindi non è più il nostro sindaco. Questo ci sta. Sì, ma tutto ci può stare assolutamente. No, ma anche una sua logica, ha ragione, il paragone con Marino è uguale effettivamente. Cioè il PD lo scarica, non ne sono arrivati ad espellerlo. Cioè loro la cacciano perché dicono che il dice Di Battista che il ricatto è apparso evidente intercettazione dopo intercettazione. Capito? Questo sì, è il punto. Sì, questo. A me pare un modo un po' assurdo. Quella dice di non essere stata ricattata se non... D'accordo. Non lo so, cioè mi sembra... Un... No, si potrebbe cacciare chiunque. Il paragone che lui fa con Marino, è vero. Se a pensarci bene, anche lì il suo partito, quello che lo ha voluto lì, poi è chiaro che i cittadini lo hanno eletto. Però. No, ma appunto. Donato, vai. Ah, Donato, Varese. Donato. Pronto? Ciao, Donato, come stai? Bene, grazie. Innanzitutto, ieri era il tuo compleanno, giusto? Sì, mi sembra. Sì, sì, è vero. Ma come mi sembra? Beh, applausi. Caro Parenzo, anche tu, unisci degli applausi. Unisci degli applausi. Compleanno. Compleanno di Donato di da Varese. Di uno che per fortuna non conosco, non me ne frega niente. Faccio gli auguri ai miei amici, non a chi... Non ti vuole fare gli auguri, Donato. Non me ne frega niente, non chi mi interessa. Vabbè, Donato. Quanti anni hai compiuto? 80, 70? No, che 80? Allora, 52, 50. 53, 54. No, ho compiuto la mia età, ma non lo voglio dire perché non serve. Quello che, io voglio dire una piccola cosa, ma con calma, con un'estrema calma, però mi dovete ascoltare. Dimmi. Non ho nessuna credine verso Dario Fo. Sì. Ma come può un Dario Fo, cioè, c'ha la sua età, però è in salute, no? Gli auguro ancora di vivere ancora un anno. Sì. Come può Dario Fo scrivere un libro appositamente su un rumeno? Su un? Un rumeno che fu incendiato da un imprenditore canadese. È la storia di un pugile. Io non so che cazzo gli sia venuto in mente di scrivere un libro dedicato a un rumeno perché è stato incendiato da un imprenditore. Al di là di veramente come sia accaduto quel fatto abbastanza macabro, io vorrei consigliare a Dario Fo, perché non ha parlato di Vanessa Russo, quella povera ragazza alla quale gli fu inflitta una morte atroce, no? con la punta dell'ombrello gli trafisso del cervello. Vorrei parlare, perché non ha parlato di quei poveri disgraziati ai quali Capobo li ha uccisi a picconate. In Italia sono morti, sono per me, è un discorso che non interessa a nessuno, però lo dico sempre. In Italia i rumeni sono usciti ad ammazzare più di 4.000 persone. Chi? Italiane. Chi? Voglio sapere, chiamatemi Dario Fo, Dario Fo mi deve spiegare, anche con grande umanità, cosa gli ha portato a scrivere quel libro dedicato a rumeni e non a nessuno dei 4.000, compreso Luca Rosi, quel povero ragazzo che fu completamente cervella, perché tentò di difendere la ragazza militare che venisse stuprata da 4 banditi rumeni. Perché Dario Fo, un italiano, perché ha sentito più il cuore verso il rumeno? Può anche farlo, ognuno può scrivere quello che vuole, però perché non dedica un po' del suo tempo almeno a uno dei 4.000 italiani uccisi nelle loro case, in mezzo alla strada? Io voglio parlare con Dario Fo, Ma mica per attaccarle, io lo rispetto. Donato D'Avarese, però scusami, Donato, a parte Dario Fo, che cos'è che ti è venuto in mente in questi giorni? Che cos'è che ti è venuto in mente in questi giorni, a parte Dario Fo? Mi è venuto in mente che la Boldrini, quella, ha parlato ieri con quell'altra parodia, quella sorta di gente schifosa. E lei gli faceva le domande, si sorridevano come se fossero andati in, non so, in qualche luogo dove si facevano quelle cose lì. E non ha fatto altro che la nostra presidente della Camera ha di parlare di terrorismo, non terrorismo islamico. Terrorismo, poi identificavo come il terrorismo islamico fossero i quattro matti delinquenti. Ti rendi conto? Qua si ammazza in nome di Allah ogni giorno e quella sporca continua a dire su Rai 1, una televisione che pago anch'io, a parlare di terrorismo. Terrorismo, non terrorismo islamico. Se noi cristiani andiamo a ammazzare, per dire anche mille Otto, sauditi, non parlo di terroristi. Terroristi, ha festeggiato il compleanno Donato D'Avarese. Scusami, Donato, ma seria, chi, altrimenti chi si è messo il velo? La signora Serracchiani che si è messa il velo, come la giudica? Fa schifo. Serracchiani è una schifosa, non si può sottomettere alle leggi coraniche, sì, Darth Fener di Star Wars. Vedere l'Iran come era fatto 40 anni fa, no, ma sono tutte dementi Darth che sono Fener, Darth Fener, di Guerra Stellare. Deve essere eliminata a caccia del culo, non solo per rappresentare l'Italia, ci vogliono dei grandi uomini. Tu ti sentiresti la nave di Guerra Stellare. Fermi, non con quelle cose che c'è di attaccata, quelle cose, quelle vampire avvelenate. Ci vogliono grandi uomini. Ma tu ti senti in grado di Darth Fener, Donato D'Avarese. Cioè tu ti senti in grado di guidare l'Italia? Darth Fener. Io la politica, senti, la politica, andare a vedere la Costituzione, quella, non è che mi scappa qualcosa. No, ma tu ti senti in grado di guidare l'Italia, sì o no? Certo! Darth Fener, Darth Fener. Fermi tutti, fermi stellaria. Tutti. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. La Zanzara. Amici miei, siamo al flop. Allora ragazzi, mentre Beppe Grillo cosa fa? In realtà non sa che fare a quarto. Prima ha detto che i voti non sono quelli della Camorra, cioè vorrebbe tornare alle urne lui, guarda, te lo dico, è chiaro questo. Beh sì, certo, all'inizio era molto incerto, no? Prima ha appoggiato la Capozzo, poi invece sono uscite altre intercettazioni, allora dice che si deve dimettere, anche il direttorio ha detto questo, hanno eliminato la Capozzo, ma secondo te cosa ha in mente, cosa vuole fare a quarto il Beppe nostro, il Beppone Grillo? Sai che cosa ha fatto Grillo? Innanzitutto ha cominciato a chiamare all'impazzata gli abitanti di Quarto, che è una cittadina, credo, circa 30-40 mila abitanti, per capire un po' cosa pensano, per capire gli umori, se è giusto. È un po' come fece il re di Giordania quando si camuffò da suddito per sentire cosa volevano i suoi sudditi. Cioè, alla fine Beppe Grillo dice, ma questi abitanti di Quarto, che ne pensano? Abbiamo fatto bene a cacciare dal partito, dal movimento, questa signora Capozzo, il loro sindaco? Chi dobbiamo candidare? E si è messo a chiamare all'impazzata. Alcuni ascoltatori, amici nostri, hanno intercettato tutto. Ecco qui. Pronto? Buonasera, sono Beppe Grillo, non si spaventi, io voglio sentire il vostro parere, il parere di voi normali cittadini di Quarto, e per questo voglio sentire anche il suo. Senta, secondo lei abbiamo fatto bene a cacciare il sindaco? Beh, per una parte avete fatto male, perché Rosa non c'entrava proprio niente. Senta, ma se lei vedesse la Capozzo per strada oggi, cosa le direbbe? Cosa le consiglierebbe? E dico forza Rosa. Ah, ma lei è un grandissimo estimatore, quindi lei ci ha votati, ha votato noi 5 Stelle. Sì, forza Rosa e forza Movimento 5 Stelle. Rosa sempre con il Movimento deve stare. Ma lo sa che lei mi piace? Se dovessimo ricandidare un'altra persona, al posto della Rosa Capuozzo, lei chi mi consiglierebbe? Io. Sei agguerrito, tu mi piace. Come dicevi prima, forza? Forza Rosa e forza Movimento 5 Stelle. Mi piace, ma puoi essere ancora più incisivo, ancora di più. Forza! Forza Rosa, forza Movimento 5 Stelle. Ma sai che stiamo andando bene. Sì. Cosa fai nella vita? Vabbè, qua a Napoli, come si dice, si lavora in nero. Ma se lavori in nero, sei il nostro sindaco ideale. Questi sono i requisiti giusti di noi, gente comune. Cazzo! E poi ci risentiamo, ma mi devi di nuovo fare un bello slogan per il nostro movimento. Dai che ti sei. Forza Rossa! Forza Movimento 5 Stelle! Sei un genio! Ti voglio bene! Pronto? Buonasera signora, sono Beppe Grillo. Le posso rubare un minuto? Mi passa a mio fratello. Mi passi suo fratello, signora. Vai, tutta la famiglia, forza e coraggio. Pronto? Pronto, sì, buonasera, sono Beppe Grillo. Secondo lei noi abbiamo fatto bene a cacciare il sindaco? Sì, sì, avete fatto bene. Per me la politica sono tutti camorristi. Ah, i politici sono tutti camorristi, ma qualche onesto ci sarà. Vi passa mio fratello perché lui è più libero. Io ma quanti fratelli siete? Ciao Beppe. Sì. Sono io il fratello. E la signora Capuzzi è una brava persona. Si è trovata in mezzo a una situazione più grande di lei. Ma sta camorra c'è o non c'è? Qui purtroppo ci sta in ogni angolo la camorra. Pronto? Sono Beppe Grillo, non si spaventi. Sì, non... io sono il Pave, dai. Sì, che volete? Io sono Beppe Grillo, guardi, non riattacchi, per favore. Ma state scherzando? No, state scherzando? Sentite, sto faticando, dite. Secondo lei, chi potremmo candidare per il prossimo sindaco? Noi vogliamo gente onesta. Onestamente, Dubarat e Juan parlavano i candidati... Lo farmacista. L'importante è che sia una persona onesta, va bene? È un farmacista di fiducia. Va bene, va bene. Va bene, grazie. Ciao. Indobardi e Giovanni parlavano del farmacista. Il farmacista. Comunque sto Grillo è incredibile. Alla fine è uno che va a sentire gli umori popolari, gli umori, forte. Gli umori della gente. Chiama a quarto, gli rispondono, gente che si candida. Oscar Caserta, Oscar. Buonasera, un piacere ascoltarvi. Dimmi. Senti, volevo intervenire la vicenda tra Baud, la ragazza musulmana che non si è fatta toccare e baciare in televisione. Sì. Questa cosa nasconde comunque una profonda ipocrisia, perché c'è un dato particolare che riguarda il dato sulle imenoplastiche. Sulle imenoplastiche? Sì, praticamente la ricostruzione. Cioè la ricostruzione dell'imene. Dell'imene, della virginità, quindi. Che che è in boom, ce ne sono tantissime, centinaia di migliaia vengono effettuate soprattutto nel Regno Unito, dove le ragazze musulmane vanno lì per un periodo di studio, di svago o altro, giustamente sono ragazze, conoscono qualcuno, fanno sesso. Sì, quelli più ricchi naturalmente, no? Quelli più ricchi. Dunque? Prima fanno anche sesso, però prima di tornare al proprio paese vanno nelle cliniche e si fanno ricostruire la virginità. Perché tornare al paese con la vicinanza perduta significherebbe portare un'onta su tutta la famiglia. Quindi il concetto è che tutte queste ragazze vorrebbero divertirsi, amano i ragazzi, si divertono, però non possono farlo a causa delle tradizioni, dell'Islam e di tutto ciò. Quindi dire che il velo o cose simili o la pudicizia può essere... Non ho capito, ma adesso tu sei così sicuro che sia proprio una tradizione questa qua? Cioè quella della ricostruzione dell'imene? No, poi i dati dicono che ci ricorrono, cioè si fanno trombare in Occidente, diciamo. Poi prima di tornare. Sì, dice questo lo dice lui. No, non lo dico io, lo dicono, si apre l'ANSA, si cerca su Google gli articoli scritti dai vostri colleghi, c'è questo che dicono che ci sono nelle cliniche, soprattutto inglesi. Migliaia e migliaia di interventi l'anno di imenoplastica, di ricostruzione dell'imene prima di tornare a casa, perché devono sembrare vergini. Ma sono ragazze che evidentemente vogliono vivere, vogliono avere una vita, cioè, anche di libertà. Vabbè, dunque, che vuoi dire? Insomma, mettiamo che questa cosa sia vera, e potrebbe anche essere vera, dunque? No, e dunque anche la ragazza, cioè l'ipocrisia di fondo. L'ipocrisia non è una questione di proprie pudicizie o altro. Quindi è sotto solo una questione. Va bene, ho capito. Gianluca da Livorno, vai Gianluca. Sì, ciao Cruciani, sono. Dimmi. Gianluca da Livorno. Ma io volevo dire qualcosa riguardo a Parenzo, che stasera secondo me ha superato il limite. Limite, su chi? Su cosa? Ogni limite. Non ci si comporta così. No, con infatti, degli ospiti no. Che vengono chiamati. non e si poi fa. Vengono trattati da cialtroni, da uno che no, ma infatti uno che è un cialtrone non gli va detto che è un cialtrone, infatti, sì, è giusto, sì. No, ma Gianluca, no, scusami, però Parenzo stasera ha combattuto come leone perché non era d'accordo su alcune cose. Non è questo il modo, secondo me. No, ma non è il modo, è vero. Ma con chi? A chi ti riferisci? Al senatore Sonego, quello del velo, oppure a Giulietto Chiesa? Al senatore, ma anche a Giulietto. Giulietto l'ha definito giornalista, definire giornalista Parenzo, secondo me. Vabbè, ma tu hai la tua opinione, hai la tua opinione? Sì. Ho capito, ma cioè, no, ma ha ragione. Ma qual è il punto? Io non riesco a capire. Qual è la critica di Gianluca? Non ho capito qual è la critica di Gianluca. È che non si può chiamare una persona al telefono ospitandola in una trasmissione e poi trattarla a pesci in faccia. Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Ma che pesci in faccia? C'è uno scontro di opinioni. Scontro di opinioni. Sì, ma senza diciamo scadere nell'invettiva. Cioè, lui l'ha dato del somaro. Cioè, uno chiama in un caso del somaro politico, sì, corretto, in un caso del somaro politico. Ma è del somaro, nell'altro caso, quello piace. Di Chiesa, gli ho detto sceneggiatore. Sì, ma sceneggiatore di romanzi, l'ha detto sì, anche sì. L'ha anche offeso. Beh, dopo su Israele si è andato giù pesante, eh. E poi gli ho detto Hamas sono la teoria completa. Vabbè, Gianluca, non riesco a capire che cos'è. Francesco da Roma, dai, Francesco. Pronto? Dimmi. Una cosa, ho visto che Parenzo ha imparato quel detto che leccare il culo ai potenti non si prende l'AIDS. Ma come mai sul velo ha difeso la Serracchiani dicendo no, ma il velo dobbiamo rispettare il loro paese? Però quando si tratta in Italia, togliamo il crocifisso, noi invece dobbiamo al contrario rispettare le loro usanze. Allora Parenzo, ci spieghi, leccare il culo va bene, ma fare il sofista da 4 lire è una cagata, quindi... sia un poco più onesto culturalmente. No, ma non ho capito però, scusami, allora, al di là dell'invettiva di leccare il culo. Primo, io non leggo il culo a nessuno. Dico quello che penso e me ne fotto. No? Dopodiché, Francesco da Roma la pensa diversamente, o non ha capito, io rispetto che la pensi diversamente, o non ha capito quel che ho detto, ha paura di quello che ho da dire. Non ho nessuna paura, sul fatto che lei non capisca non mi stupisce. Perché quando noi dobbiamo rispettare gli altri dobbiamo togliere il crocifisso, invece quando la Serracchiani si deve inchinare... Ma io ho mai detto una stupidaggine simile che bisogna togliere il crocifisso? Ho detto che nelle società, non ho mai chiesto di togliere il crocifisso, ho detto semplicemente che negli Stati Uniti, ad esempio, lei, il mio modello PD, c'è la bandiera americana troppo, nelle classi degli uffici troppo, pubblici oppure la foto del capo dello Stato. Allora, siccome lei è un povero imbecille che non capisce, se uno non capisce, ma fallo parlare, dai, e glielo spiega, ma non ha capito. No, ho detto che in America, scusi, Francesco, imbecille da Roma, mi ascolti. Ho detto che in America, scusi, imbecille, mi scusi, imbecille. Lei io dico quello che penso e non ricordo culo a nessuno. Mi può dire perché che hai non... detto perché dici che lei calcola? Allora, ma lei calcola perché la Serracchiani è del PD, ma allora questa non è una cosa che ha sbagliato. Questa è una cosa che rifiuto perché non è mai stata nel mio lavoro. Ma se è d'accordo con la Serracchiani che si è messa al velo, perché dici che lei calcola? È d'accordo su questa cosa? Perché me ne frega? Secondo me, ma perché è un cretino lei? Questa a me, no, quando uno lei, mi manda il sangue al cervello, così. Perché non è vero. Quando la toccano, lei reagisce in questo modo. No, Io le ho detto che non ho mai detto di togliere il crocifisso nelle classi italiane. Ho detto semplicemente, sì, a me se è vero che ha fatto bene, certo. Vabbè, l'altra cosa è che invece dico Francesca, è che il modello americano questo. Negli uffici pubblici è quello di avere la bandiera americana e alle volte la foto del capo dello Stato nei paesi laici, ad esempio in Francia. Però siamo in Italia. Allora, siamo in Italia, non ho mai detto di togliere il crocifisso. Ho detto che forse potrebbe essere intelligente mettere la bandiera italiana perché è il simbolo dello Stato. Vabbè. O del capo dello Stato, ma non mi sognerei mai di dire di togliere il crocifisso. Allora Francesco, perché dici che le calculo? Lorenzo, lei è schierato di parte perché le conviene. Lei allora, è un detto, povero non idiota, non le sono schierato con nessuno, dico quello che penso e lei è un povero idiota. Ma non è vero, che non lei si è sempre lei come schierato. La pensa? Lei la si pensa diversamente da me, lei evidentemente la pensa diversamente da me. Una volta col Francesco PD, da Roma è il leccaculo della destra. Allora, se è vero, Francesco da Roma è un leccaculo della destra. Complimenti. Lei è il leccaculo della destra. Massimiliano da Bergamo. Complimenti a Francesco da Roma, leccaculo della destra. Massimiliano da Bergamo, vai. Sì, buonasera. Vale. Purtroppo anch'io ho una critica da fare a Parenzo. Questa è l'ennesima puttanata che ha detto, ne disse tante. Cioè, quale? Fatemi capire quale. all'inizio della trasmissione è d'accordo sul fatto, io non sono d'accordo, è d'accordo sul fatto che uno si mette il velo quando va a trovare non è casa sua. Ma l'hai detto, non c'è bisogno che lo rispieghi. Non avete capito cosa voglio dire? Ma è la logica, non è non è che hai ragione per forza tu, però abbi pazienza. No, non hai ragione per forza tu. No, non hai ragione. Adesso non mi fare incazzare anche a me, che non mi sono incazzato. Non hai per forza ragione tu. No, non è una questione di rispetto. In chiesa ti togli il cappello. E non è obbligatorio in Iran mettersi davanti ai capi di Stato il velo in testa, capito? Cioè, una evidentemente scelta. È una scelta perché il protocollo gli ha detto quale protocollo? Così, perché ha scelto di fare così. Dai, Massimiliano, non so se forse l'hanno consigliata, non lo so. Allora, dove non mi pare è l'errore scandalo logico di Parenzo, in quanto segue. All'inizio della trasmissione Parenzo diceva che impedire alle donne di guidare, ammetteva interloquendo con Cruciani, effettivamente è una violenza. Ma assolutamente. Mentre invece portare il velo è un'usanza per cui va rispettata. Questo è il ragionamento. Più o meno, il velo sui capelli, non il burka. Esatto. Il velo. Il ragionamento. Cioè i capelli coperti come le suore, per intenderci. Fammi finire. Ma cerca di capire. È comunque però idiota. Perché? Perché nessuno impedisce a una donna, e si sogna di dire che una donna italiana del sud, tradizionalista o musulmana, non possa portare il velo, ovviamente. Ma il problema è che il velo è imposto solo alle donne, gli uomini possono andare a capelli sciolti, esattamente come la guida. Possono guidare in certi stati, particolarmente... No, ma è lo stesso ragionamento che faceva Sonico. Dobbiamo chiudere, a domani 18.30, ciao. Io amo la zanzara, non penso più alla moglie, al lavoro, ma io penso solo e sempre alla zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.